Vede, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot e-cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it. Galaxy, sai che cos'è archeologia videoludica? Mi faccia fare una ricerca su internet per una risposta su Galaxy, sai che cos'è archeologia videoludica? Però non ti suggerisce che... Non capisce niente, cioè, a parte non capisce proprio niente. Not, sai che cos'è archeologia videoludica? Salvata in Nemo. Galaxy, non capisci un cazzo. Non sarò un genio, ma non amo le offese. Perché tu hai detto not, quello del segno della nota. Vabbè, io inizio a registrare il mio podcast. Ci stanno i cucchiaini pure per girarlo. Non capisco, per favore riprovi. Ho detto che inizio a registrare il mio podcast. Non so se posso rispondere correttamente. Vabbè, ma vaffanculo, capisci il cazzo. Carissimi amici di Archeologia Videoludica, bentornati a questo nuovo episodio della nostra grande cavalcata in questa seconda e finale parte di quarta stagione, dove stiamo andando insomma verso una conclusione ricca di temi, ricca di argomenti e che sicuramente troverete sorprendente rispetto alla prima stagione, che è stata un po' più moscia. Insomma, abbiamo tante cose in cantiere, le stiamo già preparando e addirittura le abbiamo praticamente già prelavorate. E abbiamo fatto ultimamente, come avrete notato dalle puntate con Gianluca Santilio e dalla puntata già realizzata su Doom, che ha riscosso un buon successo con Mascito d'Amici, avrete notato sicuramente che abbiamo ampliato lievemente il nostro cast, il nostro crew, e per non essere da meno abbiamo pensato di allargarla ancora di più. Praticamente stiamo fondendo i vari team delle varie trasmissioni IPN a sfondo videoludico, stiamo diventando un organismo mutaforme che alla fine insomma ci ingloberà tutti quanti. E diamo il benvenuto in questa occasione non solo a questo episodio ma a questo finale di stagione, probabilmente anche alle stagioni future, a il nuovo arrivato, che è Giuseppe Saso. Buon salve a tutti amici del dado da 20. Perché Giuseppe Saso esordisce con questo episodio? Esordisce con questo episodio, c'è un motivo specifico che dopo ovviamente capiremo, e quindi prima o poi introdurremo determinate cose. Ma non siamo soli, chiaramente, ci abbiamo portato un frigorifero di quelli portatili, però siccome che volevo staccare la spina, anche perché fa rumore e poi dopo il ronzio del compressore rischia che fa casino. Allora adesso io lo apro, vediamo se ne esce fuori qualcosa. Esci? Oh. Esci? Che c'è? E devi uscire, devo spegnere qua. Come devi spegnere? Ma io sto a leggere. No, devi spegnere, quindi aspetta. Devi uscire. Bravo, ma non potevi prendere un frigorifero più grosso? Ma questo è piccolo. Che vuoi da me? Che cavolo? Tanto per te è una porta dimensionale, non è un... Vabbè, una porta dimensionale, ma io non c'ho il culo dimensionale, quello normale, anzi. Lo avrete riconosciuto, signori ascoltatori, abbiamo Marco Gualdi, distruggitore. Tutti, questi sbalzi di temperatura già mi hanno fatto ammalare. Salute è una parola grossa. Che devo registrare io? Perché stavo dentro al frigorifero. Archeologia videoludica. Archeologia videoludica, quanto tempo è passato. Allora, diamo i riferimenti del nostro podcast, che ovviamente sono www.archeologiavideoludica.net, che è il sito di riferimento, che è in scadenza, quindi già dal prossimo mese potrebbero esserci grandi trasformazioni. perché questa trasmissione non l'abbiamo pagata. Non famo sempre le figure, no, che ne so, io chiedo, perché questa trasmissione è ovviamente prodotta da Italian Podcast Network, quindi italianpodcastnetwork.it, ma è come prodotta e fa parte oramai della grande famiglia di progetti nell'area podcast di allgamesitalia.net. tra l'altro vi suggeriamo di entrare nel forum di allgamesitalia.net e di iscrivervi, perché presto, per commentare le puntate, probabilmente si potrà soltanto da lì o dalla pagina Facebook. Quindi andate su Facebook, cercate archeologia videoludica e sicuramente ci trovate. Stessa cosa vale per Google Plus, che è gestita dal Marco Gualdi in persona. Infatti, infatti non ci caga nessuno. I commenti che ci sono, ma quello non perché lo gestisco io. Ma no, perché tu sei l'uomo social, meno appropriato per sei, i social. Sei social come la morte, praticamente. Esatto. Molto social. È social. E poi abbiamo ovviamente anche il nostro Twitter, che è il professor Jones, che risponde a Videoludica. Di solito con il medio, però no, nel senso uso un dito solo per battere di solito. At Videoludica. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, mentre che Marco Gualdi muore, vi ricordiamo che è uscita da poco l'episodio di Dietrologia Videoludica, che è completamente puntatone. Ci sono ospiti sonori e canori non ci sono, però insomma, sonori, sì. Una bellissima puntata sul doppiaggio che è stata ideata e portata a compimento da Carlo Burigana, con tanti ospiti a sorpresa, anche piccole chicche, insomma, vabbè, un puntatone. Mai puntata podcast fu più doppiata di questa, addirittura. Esatto. Un Geronto Gamers alla fine, ragazzi, che non ve lo potete perdere. Addirittura lì ci sono grossi nomi, li potreste roba ricordarvi grossa, addirittura grossa. Uma Thurman Uma Thurman. E va bene, e ascoltiamoci lo spot di questo episodio, che poi ve lo andrete sicuramente a scaricare perché siete ingolositi. Il doppiaggio italiano è un passo importante per la completa localizzazione di un videogame, ma come funziona? Chi ci lavora? E soprattutto come? Carlo Burigana ci introduce nel complesso e inesplorato mondo del doppiaggio videoludico per scoprirne pregi, difetti e possibili evoluzioni. Prossimamente, solo su Dietrologia Videoludica. Perfetto, allora stiamo parlando, prima di entrare nel Barnett College, prima di introdurvi del che cosa andiamo a discutere, ovviamente poi insomma anche presentando Giuseppe come conduttore, come partecipante, ma anche come autore di un suo podcast, ci andiamo a spiaccicare l'uovo del tempo a cura di Roberto Bertoni, che ovviamente insomma traccia il periodo storico che stiamo per trattare, che poi ovviamente è quasi sempre lo stesso, cioè 1975-1983-84, anche due palle, però bello, no, però ha trovato nuove notizie, okay? Scavando, sparatevi l'uovo del tempo. La nostra macchina del tempo videoludica ripercorre ancora una volta il periodo che intercorre fra gli anni 70 e gli anni 80. Periodo di grande vitalità, permeato da numerosi cambiamenti sociali e politici. Come non ricordare ad esempio la presa di potere di Margaret Thatcher, nuova leader del Partito Conservatore Inglese a partire dall'11 febbraio 1975, o l'abbassamento della maggiore età in Italia l'8 marzo dello stesso anno. In Italia si soffre il 9 maggio 1978, quando la morte di Peppino Impastato segna un'altra dolorosa pagina della nostra storia. Mentre Queen, il 5 maggio del 1979, portano sul mercato l'album Don't Stop Me Now, uno dei più grossi capolavori di sempre del gruppo britannico. Anche lo sport la gioca da padrone, con i mondiali argentini del 1978, la vittoria del Tour dei grandissimi nel 1979, con 7 tappe vinte in quell'edizione, e le discusse Olimpiadi russe del 1980. Vi ricordiamo infine il 1983, dove il 26 gennaio Lotus 1-2-3 vide la luce sugli IBM compatibili, o il 19 dicembre del 1984, quando Gran Bretagna e Cina decisero di gestire Hong Kong. C'era la Thatcher, Pat, ricordi, c'era la Thatcher, oh, la Thatcher, la donna di ferro, che uno gli dice la Thatcher, ma chi t'ha cercato? Sai, questa l'ho fatta pure l'altra volta, ma rimortacci tua, ma rimortacci, che storia, eh? Comunque vi siete messi comodi, perché Bertoni per leggere 15 righe ci mette 10 minuti, no, tranquilli, no, apposta. Allora, poi ricordate che Bertoni, come abbiamo detto, ha fatto la puntata su Doom, fantastica puntata con Mashiro Tamigi, e ogni volta che Roberto Bertoni e Mashiro Tamigi pronunciano qualcosa in lingua inglese, un giovane londinese un giovane inglese muore, quindi questo è chiaro. Allora, si parla in questa puntata degli albori dei giochi di ruolo, ed è per questo che c'è, ciao Giuseppe, ciao Giuseppe Saso. Perché c'è Giuseppe Saso? Perché non solo Giuseppe è un appassionato di giochi di ruolo, chiaramente, come del resto anche tutto il resto dei videogiochi, ma perché Giuseppe, adesso ce ne parlerà un attimo, ha proposto, ideato e sta conducendo un podcast neonato, però già di successo, che è L'Occhio del Beholder. Podcast, ricordiamo, che fa sempre parte del network di IPN. Di IPN, e che è nell'area podcast di allgamesitalia.net. Sì, L'Occhio del Beholder è fondamentalmente, mi piace sempre ricordarlo come un parente comunque dell'altro podcast specifico, molto tematico, esatto, tematico, che è Calavera Caffè, solo che appunto, anziché io non mi occupo di avventure grafiche, bensì di videogiochi di ruolo. Siamo già arrivati alla quarta puntata. Quando ascolterete questa, dopo qualche giorno più o meno dovrebbe uscire anche quella nuova, e fondamentalmente trattiamo, alterniamo discussioni ad ampio respiro, no? Su tematiche sempre inerenti ai giochi di ruolo, a vere e proprie retrospettive. In particolare, siccome tratteremo alcuni giochi di cui ho già parlato nel podcast, vi consiglio di ascoltarvi la seconda puntata, che è interamente dedicata alla serie di Richard Garriott, Ultima. Esatto, perché ovviamente qui in questo episodio andremo ad affrontare quelle che sono le origini, diciamo, storiche del videogioco di ruolo, e ovviamente non potremo non tirare in ballo, ovviamente, la serie Ultima non potrà non essere tirata in ballo, e quindi dovete andarvi ad ascoltare questo episodio, che sarà comunque linkato all'interno delle note dell'episodio, perché insomma in realtà questo episodio nasce proprio in virtù del fatto che abbiamo colto la palla al balzo della nascita dell'Occhio del Beholder, che ricordiamo sempre Sir Beholder, perché insomma fa sempre piacere. Ci ascoltiamo lo spottino. Ehi, guardate, vi ricordate sto gioco? Che grafica de merda. Ma questi giochi non fanno più per me, non c'ho tempo. Ma che è? Oh, porco zio, ma che è? Infatti, ma che sta succedendo? Dove siamo finiti? Perché sono tutto in pixel art? Non temete, guerriero, mago, ladro. Quello è Bello Sguardo, la nostra mascotte del podcast. Io sono Peppe, il Dungeon Master, e sarò la vostra guida alla scoperta dell'Occhio del Beholder. Perfetto, allora, gioco di ruolo. Vi ricordo che il primissimo episodio dell'Occhio del Beholder, dato che ne stiamo parlando, ha affrontato un tema importante, ossia praticamente nella tavola rotonda che Giuseppe ha messo in piedi ci siamo domandati che cos'è il gioco di ruolo. Ovviamente ognuno ha detto la sua, però questa volta è proprio, ci ha mandato dal liberspazio, visto dalle fogne, insomma, da dove viene. Sapete, sapete che noi il nostro professor Jones lo schiaffiamo e lo mandiamo sempre in missione, o se ne va in missione da solo, non lo sappiamo. Lui è come un ovulo espulso, esatto, va, lui tanto sparisce, esatto. E va dove capi, dove porta la corrente. Un ovulo espulso nella fogna sembra una roba di cocaina, ma lui perché, sì, è un eccitante, e lui se n'è andato in missione da solo, per conto suo, ci ha mandato questo audio messaggio con l'intento di spiegarci quello che concettualmente è il gioco di ruolo nel senso assoluto e ovviamente dal punto di vista. E qui notiamo che il professor Jones, pur dicendo quattro volte le cose che ha detto Bertoni, ci mette meno tempo chiaramente. Ascoltiamo. Un'aberrazione temporale. Bentrovati dal professor Jones al secolo Giuseppe Scaletta. Quest'oggi ho il felice compito di spolverare qualche vecchio libro digitale per definire l'argomento della puntata. Allora, un gioco di ruolo, abbreviato spesso in GDR o RPG dall'inglese Role Playing Game, è un gioco dove i giocatori interpretano il ruolo di uno o più personaggi e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginato, dove avvengono fatti fittizi e avventurosi, in un'ambientazione narrativa che può ispirarsi ad un romanzo, ad un film, ad una qualsiasi fonte creativa, storica o di pura invenzione. Questa è la definizione che ci dà l'Enciclopedia Libera del termine gioco di ruolo. Ma quando noi videogiocatori utilizziamo il termine giochi di ruolo, a meno di rare eccezioni, raramente andiamo con la mente a carta, matite, dadi ed eventualmente miniature, bensì ci riferiamo ad un sottogruppo piuttosto specifico di GDR. D'altronde siamo in archeologia videoludica, no? I giochi di ruolo possono essere di vario tipo, appunto da tavolo con carta, dadi e penna, oppure dal vivo, con sessioni live in costume, durante le quali vengono a volte utilizzate addirittura repliche di armi. A noi interessa parlare più di preciso di videogiochi di ruolo, in cui la carta e la penna sono messe da parte per far spazio a joypad, a personaggi più o meno definiti o definibili, a una trama già stabilita nella quale si dà un certo margine di libertà, a volte ampio, a volte meno. All'eroe, impersonato dal giocatore, generalmente vengono affidate una o più missioni, potendo contare su caratteristiche peculiari in costante miglioramento, come punti ferita, punti magia e livelli, ed abilità speciali da acquisire in modi differenti. I videogiochi di ruolo a volte comprendono trame complicate e sviluppo dei personaggi. I giocatori devono di solito scegliere quali delle diverse possibili combinazioni di caratteristiche e abilità acquisire per i loro personaggi per poter procedere e, se possibile, vincere il gioco. Nel corso del viaggio, l'eroe o gli avventurieri che compongono il suo party affrontano continui attacchi di nemici e mostri, a volte ispirati alla mitologia reale. Il mondo dei giochi di ruolo è così vasto che alcuni dei suoi elementi si possono ritrovare nei videogiochi di strategia in tempo reale, negli sparatutto in prima persona ed in alcuni altri tipi di videogiochi come i MMORPG, i Massive Multiplayer Online Role Playing Game. La più grande dicotomia per i videogiochi di ruolo è data dal binomio JRPG, ovvero giochi di ruolo giapponesi o orientali, e GDR di stampo occidentale. Generalizzando, alcune caratteristiche del primo tipo sono personaggi piuttosto stereotipati, avvinghiati in trame complesse, combattimenti a turno ed enfasi sulla spettacolarità. Al secondo tipo appartengono giochi più realistici, le cui missioni possono apparire più varie ed articolate, in cui il senso di libertà è spesso molto marcato. Ma a generalizzare, si sa, per lo più si sbaglia. Quindi il resto ce lo raccontano i nostri amici di AV. Alla prossima! Allora Giuseppe, questa è l'introduzione che ha fatto il tuo carissimo amico, poi tra l'altro, perché voi non sapete, anche con paesano, esatto, non sapete che c'è un caramba che sorpresa in questo mondo dei podcast videoludici, perché Giuseppe Saso e Giuseppe Scaletta erano amici da ragazzini, quindi condividono il nome apposta, non a caso, infatti se lo sono scambiato in realtà, e anche l'inizio del cognome, e anche l'inizio del cognome, è vero, solo che tu è un po' più corto, sì. Diciamo, se uno se lo ricorda un po' meglio te. E ok, quindi entriamo un po' nel vivo. Innanzitutto la definizione che ha dato Peppe, insomma, è abbastanza comunque completa. E come del resto ne discutevamo anche nell'occhio, effettivamente il fulcro dei giochi di ruolo sono sempre stati le meccaniche, e in particolare le statistiche e il sistema di regole che vuoi per appunto avere una componente fortemente presa dalla matematica, era facilmente implementabile in un calcolatore, no? Ma in realtà ciò che ha contribuito alla nascita dei giochi di ruolo per computer, che è fondamentalmente il fulcro di questa puntata, e sottolineo proprio per computer, quindi se vi aspettate che tratteremo almeno in questa puntata delle saghe più blasonate come Final Fantasy eccetera, starete abbastanza delusi, perché appunto noi qui si parla proprio delle origini. Esatto, delle origini, quindi prima delle saghe, esatto. Prima di farsi, no, le saghe, prima delle console, fondamentalmente prima delle console, quindi parliamo di computer Apple 2 e PC, poi fondamentalmente in realtà parte, allora, prima di tutto volevo fare solo una brevissima introduzione, appunto dicendo le tre cose, i tre elementi che hanno fondamentalmente portato alla nascita, o comunque da cui i giochi di ruolo hanno tratto fondamentalmente ispirazione. Il primissimo ovviamente sono i giochi cartacei, in particolare il gioco di ruolo Dungeons and Dragons. L'altro è stato ovviamente la letteratura fantasy, e in particolare le opere scritte da J.R.R. Tolkien, che è riuscito anche a delineare un universo così profondo che da sembrare anche a volte verosimile, no? Perché Tolkien studiava anche per esempio la scrittura, no? Tutta la scrittura di Elf in realtà è stata fatta su studi di linguistica. Ma in realtà ci sono anche altre due fonti di ispirazione che raramente vengono citati, che sono i simulatori, i giochi di simulazione sportiva, che in particolare in America andavano molto forte, come ad esempio Stratomatic, oppure All-Star Baseball. Ovviamente, essendo in America, uno degli sport più gettonati del baseball, e questi qua erano fondamentalmente dei giochi tipo il fantacalcio ad litteram. La cosa bella è che questi giochi, che quindi erano pieni di tabelle, statistiche, simulavano effettivamente una partita, un incontro di baseball, venivano anche giocati con ovviamente un elemento sempre casuale, tirando proprio anche dei dadi. E poi un altro ultimo elemento che ha contribuito pure a fare nascere i giochi di ruolo, paradossalmente, vuoi anche per la vicinanza di generi con cui solitamente la si accosta, sono anche i giochi di avventura, ma in particolare il primo gioco di avventura per computer, che non so se avete già trattato negli episodi precedenti, che è Colossal Cave Adventure di Will Crowder. Sì, ricordiamo la puntata speciale con Buonaventura di Bello, con il quale abbiamo ovviamente affrontato un po' tutto quello che è il cammino delle avventure. Tutto ciò in realtà ha contribuito appunto alla nascita dei giochi di ruolo. Possiamo, volendo fare una similitudine con i vari periodi storici, no? O anche per esempio con i fumetti che c'hanno tipo le varie ere, no? La Golden Age, la Silver Age, eccetera. Possiamo fare, anche noi possiamo delineare possiamo raggruppare la storia dei giochi di ruolo in diverse ere. Ovviamente noi ne tratteremo solo alcuni in questo episodio. In particolare partiremo dalla Dark Age, che non è perché è oscura, perché non hanno pagato la bolletta come i server VPN, perché i monitor erano fosfori verdi. Ma in realtà questo termine è abbastanza appropriato, perché i giochi di ruolo fondamentalmente, i primissimi, sono nati come degli esperimenti di svago fatti nei mainframe dei college americani. Ovviamente sto parlando del periodo dei primi anni 70. Esatto. E a quel tempo ancora, solo qualche anno dopo sarebbero venute appunto l'Apple 2 e tutti questi altri home computer, quindi ancora eravamo qualche anno poco prima dell'avvento, e quindi i computer non erano facilmente accessibili all'interno delle abitazioni. Era più facile appunto sì, perché erano grosse come le abitazioni, erano anche grosse come armadi, e alcuni appunto i mainframe occupavano anche intere stanze. Esatto. Dovevano sacrificare un bambino. Ti interrompo solo per dire che in realtà infatti in preparazione, proprio per quanto riguarda 1975, è un episodio sul primo videogioco 3D della storia, quindi insomma questa è un po', poi uscirà fra due o tre episodi chiaramente. Addirittura abbiamo una stanza adibita a mainframe, purtroppo è proprio lì che furono costruiti, cioè fu costruito questo gioco. Insomma, il bello è che si giocava anche in rete. Sì, quello che non sappiamo. Sì, anche perché molti mainframe consentivano a più utenti di connettersi o di, diciamo, di operare all'interno come se fosse una rete locale fondamentalmente. Esatto. Comunque la cosa, tutto ritornando al discorso del perché l'era oscura, è fondamentalmente perché questi giochi venivano appunto creati per questi mainframe, quando in realtà molti college ovviamente vietavano la creazione di applicazioni ludiche. Esatto, ludiche. Ecco, tutti i soldi che costavano, insomma, quando gli amministratori se ne fregavano comunque, sì, quando gli amministratori infatti sgamavano gli studenti ad avere creato questi programmi, quindi avere sprecato risorse del college, dell'istituto, li cancellavano. Quindi pensa quanta roba, appunto, sempre nell'ambito della preservazione videoludica, quanti giochi di ruolo di questi anni sono andati persi fondamentalmente. Uno, diciamo, dei primissimi era fondamentalmente, in particolare, era stato progettato su un mainframe che veniva chiamato Plato, da cui Platone. Che è stata la rivoluzione, perché infatti sì, di Plato parleremo quando parleremo di quella puntata. E in particolare, ovviamente, permetteva agli studenti, ovviamente, di stilare, insomma, documenti relativi alle ricerche, alle lezioni. Ovviamente aveva anche una basica funzionalità, anche un programma di chat, e anche un programma per creare nuovi moduli di lezione, che fondamentalmente era un antesignano dei linguaggi di programmazione. Questo qua, in particolare per il Plato, si chiamava Tutor, sempre per i famosi giochi di parole. Su una di queste macchine, Donny e Lawrence creò un gioco che, guarda caso, chiamò D&D. Ma guarda un po'. Ovviamente il gioco, in particolare, in realtà non era esattamente per il Plato, questo di D&D proprio di Lawrence era per il TOPS 10 come sistema operativo, che era il sistema operativo che girava sul PDP 10, esatto, della DEC. Il gioco fondamentale, Marco se lo ricorda benissimo, sì, ce l'ho a casa. No, vabbè, dai, abbiamo fatto tutta una bella stagione di archeologia videoludica, certo, insomma, certo. Vai. PDP che non passava mai, passava, ma è sempre stupido. A partire da questo gioco, in realtà, ovviamente, perché i programmi fondamentalmente si diffondevano, poi anche la conoscenza attraverso scambi culturali, no? Di gente che, insomma, andava al college, poi ovviamente magari erano professori poi che cambiavano, e quindi magari poi lo implementavano pure nei loro istituti, no? E quindi con questa specie di passaparola nacquero tra il 1976 e il 1979 una serie di cloni di questo gioco, che in particolare ricordiamo, ovviamente ne snocciolo sempre una serie, ma non pretendo ovviamente che sia un elenco esaustivo di tutta questa trattazione, no, perché no, vabbè, certo, non riusciremmo ovviamente a coprire neanche forse 10 puntate del podcast. Alcuni di questi in particolare erano ovviamente... No, questo lo diciamo, perché poi ci sarà quello che scriverà però non hai citato quello, che rompe il cazzo, diciamo, bravo, no, vabbè, ma devi fare quest'anno, no, ci stanno. Sì. Alcuni di questi erano appunto Oubliette, Moria, Avatar e Ortank, fondamentalmente. Tutti ovviamente permettevano di esplorare, e questa è anche una particolarità di molti RPG degli albori, fondamentalmente erano tutti dei dungeon crawler, cioè non è come oggi che io prima vado a esplorare un intero mondo, no, una regione magari, quindi sono prima in superficie, vado da villaggio in villaggio, foresta in foresta, dentro, e poi arrivo dungeon, al dungeon, no, qua solitamente si partiva proprio nel dungeon, magari era un dungeon comunque sin dall'inizio abbastanza articolato, a più piani, no, più livelli. E solitamente, appunto, per implementare anche questo, offrivano una visuale in prima persona, con ovviamente fatta con una grafica, alcuni in realtà in parte utilizzando a volte anche proprio i caratteri degli asci o quando andava bene in vettoriale. Altri invece utilizzavano il wireframe vettoriale, ovviamente non a colori, nero, non sappiamo ma non era so. Cos'era, no, no, proprio in particolare per cos'è lei il colore. Per quanto riguarda Moria, che è uno dei particolari, utilizzava questo qua, infatti, una vista in wireframe, e permetteva di esplorare questo dungeon comandando un gruppo di avventurieri. Vabbè, c'erano ovviamente quattro statistiche, quindi ovviamente cominciano a essere implementati fondamentalmente quelle, tutti quegli elementi appunto che erano già esistenti nei giochi di ruolo cartacei. Qui ovviamente non erano quelli classici che possiamo pensare di Dungeons and Dragons ad esempio, quindi forza, intelligenza, carisma, destrezza, qua, qua invece c'erano per esempio furbizia, pietà, valore, stregoneria, così. Valori a casaccio, sì. E poi la cosa bella è che per esempio il sempre Mori implementava per esempio quattro gilde, quindi quattro associazioni a cui i giocatori potevano ovviamente unirsi per ottenere altre abilità. Ad esempio, se tu ti univi al circolo dei maghi, no? Potevi poi imparare la magia che ti consentiva di teletrasportare l'intero party da un livello a un altro, per esempio, del dungeon. E la cosa bella è che comunque erano anche abbastanza appunto complessi, nonostante appunto fossero dei pionieri in questo campo, no? E addirittura appunto alcuni come lo stesso Moria implementavano anche, oltre ovviamente alle cose classiche che ormai ci ritroviamo, che, tipo i punti vita, il numero di limitato inventario che ciascun avventuriero può portarsi appresso, anche altre cose che per esempio sono nel tempo andate poi a sparire guardando ovviamente ai giochi di ruolo di Ermi, come per esempio la necessità di bere e mangiare man mano che tu progredisci nell'avventura, altrimenti ovviamente quando finivi i viveri morivi di fame. Questo ovviamente era previsto il cannibalismo, sì. No, assolutamente. Anche se Marco lo dice, Fallout New Vegas Fallout, in modalità hardcore c'era questa possibilità, c'era questa fantastica i malus che poi diventavano la morte. Obliette era ovviamente analogo a Moria, sempre in prima persona, sempre ovviamente con una grafica 3D, solo che questa qua invece proprio copiava a pari pari le regole, quelle di Dungeons & Dragons, quindi dei manuali della TSR fondamentalmente. A volte pure citando proprio in alcune descrizioni proprio anche le opere di Tolkien pure. Ah, okay. E questa è la cosa e non facciamoci mancare niente, insomma, sì. Mettiamoci dentro questo loro. Qual era Moria? No, questo era Obliette. Obliette, okay. E ovviamente c'era anche una cosa molto simpatica di Obliette che non era stata implementata negli altri e che poi solo dopo ce la ritroveremo con un certo sviluppatore in particolare. C'era la possibilità per gli avventurieri di sesso femminile di sedurre i nemici di sesso maschile. Abbaglio per non inventare niente. Marco, cioè, hai avuto sto colpo al cuore? Come stai reagendo? Beh, giocherò a quei giochi, cioè, recupero. Il bello è che lo potevi usare in combattimento, questa operazione, questa abilità. Finirebbe chiedere a Paganini se esistono degli emulatori di questi giochi. E la cosa molto simpatica è che se fallivi questo tentativo di seduzione, morivi. Certo. Cioè, era praticamente causava la morte cioè, fammi capire, cioè, tu praticamente andavi arrivava il guerriero, tirava fuori la spada, ci vai a vedere le zizze. Tu le zizze, o ci sta, oppure era la spada. Ormai stai con le tette alzate, che fai? Invece, nel caso riuscivo ovviamente a sedurlo, quel personaggio poi diventava un leale compagno. Basta darla regolarmente ed è fedelissima. Poi, parallelamente a queste tipologie di gioco, sempre sto parlando di mainframe, in particolare su architettura Unix, uno dei più famosi come genere di dungeon crawling era Rogue. Ne avete forse pure sempre questo, suppongo, sospettato, parlato nelle puntate precedenti. In particolare la prima implementazione, che era del 1980, era ad opera di Michael Toy e Glenn Winchman. Ma io invece ne parlerei un attimo, perché sai che non abbiamo, siccome che proprio l'argomento giochi di ruolo non abbiamo praticamente mai trattato fondamentalmente, sì. Lo spieghiamo perché Rogue poi in realtà ha dato il via proprio a una tipologia proprio specifica poi del giochi di ruolo. Allora, Rogue è appunto implementato per la prima volta nel mainframe dell'università di Berkeley. È un gioco dove si muore molto. È innanzitutto un gioco che, a differenza di tutti quelli che magari ho anche citato in precedenza, non presentava sempre gli stessi dungeon a differenza delle partite, ma i dungeon appunto venivano generati casualmente. Questa, diciamo, è la prima innovazione, chiamiamola così. Poi l'altra seconda particolarità, distinzione, non era grafica wireframe, ma bensì era appunto disegnata quasi tutta con caratteri asci, proprio ovviamente era l'unica in quel momento soluzione possibile per giustificare la possibilità di generare appunto le varie stanze in maniera randomica. Quindi non, niente più vista in soggettiva, sì. Niente più vista una specie, in diciamo, vettoriale. Quello che poi sarà stato vista uccello praticamente. Vista in realtà io la vedo più, diciamo, nell'ottica poi di guardare avanti al futuro, l'evoluzione di quella che poi diventerà l'era dei giochi di ruolo 8-16 bit, no? Quella specie di finto bidimensionale schiacciato come può essere tipo anche la navigazione nei primi Final Fantasy, no? Un South Park. Ah, esatto. Sì, vabbè, sì, dai, sì, ok. E ovviamente la cosa più simpatica è che il personaggio del giocatore era sempre rappresentato dal famoso simbolo et che ora ci utilizziamo. Perché era tutto completamente in asci, sì, esatto. Cioè, nel senso, tutto quello che era generato erano lettere, caratteri, non c'era grafica, cioè fondamentalmente. La missione ovviamente del gioco, come fondamentalmente più o meno tutte erano dei cliché, in questo caso era di scendere, insomma, di arrivare all'ultimo livello di questo dungeon che veniva chiamato il Dungeon of Doom, non perché c'avevo appunto delle parentele con con l'opera di Carnac. Dopo però su Kit in Google aggiungiamo una cosa diciamo, aggiunto all'ultimo livello bisognava trovare la stanza che conteneva l'amuleto di Yendor. Poi magico, lo prendi. Dopodiché hai vinto. Pronto? L'interesse è marivacce, però. Sì, esatto. E poi un altro aspetto interessante è che non la differenza di alcuni di questi giochi dove comunque era contemplata la possibilità magari di arrivare o comunque all'inizio dell'avventura di avere tipo un negozio dove potevi acquistare armi ed equipaggiamento. Qua no, qua il personaggio cominciava praticamente quasi nudo e tutte le armi, armature eccetera e oggetti dovevi raccattarle esplorando via via il dungeon, poi diciamo quindi lottando corpi sconfiggendo ovviamente le creature prima. E ovviamente Rogue ebbe tanto successo da appunto procreare tanti cloni, no? Cloni, esatto. Poi vennero definiti roguelike. Esatto, quelli che vennero definiti roguelike. In particolare poi l'ultima cosa che per cui ricordiamo e da cui è nato il famoso termine anche roguelike, pure per indicarlo, è il fatto in realtà una caratteristica particolare era pure il permadeath, no? Una volta che il rogue tu morivi era finito, dovevi ricominciare da capo. Ovviamente ricominciare da capo significava anche andare ad affrontare un dungeon appunto completamente nuovo. Esatto. Alcuni di questi titoli che appunto clonazzi di Rogue ricordiamo Ek, Larn, Ancient Domains of Mystery e Angband. E in particolare Ak, Gangband, scusa, non ho capito. Angband. Angband, ho capito un'altra cosa. Nell'immagine che voi non vedete, vediamo appunto quella classe. È un rug che, diciamo, sì. Questa è la versione moderna che gira su MS-DOS. Beh, considerate che c'è il video su YouTube proprio del rug originale. Sì. Quindi, insomma, guardandolo, voi ovviamente anche questo sulle note dell'episodio, vi renderete perfettamente conto di che tipologia di gioco è e soprattutto quanto è veramente lontana anche la logica del videogioco rispetto a quello di oggi. Eppure, e ve lo assicuro, allora quando i computer avevano il monitor monocromatico e non esisteva grafica, cioè nel senso i computer non avevano proprio la modalità grafica o quelli che ce l'avevano comunque in questo specifico caso, comunque era tutto con carattere e ci si giocava anche per ore. Era l'epoca dei computer che tu li mettevi dentro un gioco e bestemmiavano i computer. Cosa mi stai facendo fare? Faccio a farlo. Però no, era veramente ore e ore e ore di gioco. E questi questi poi erano, cioè ecco, Rogue poi ovviamente, come ha detto Giuseppe, ha fatto partire ovviamente una tipologia, una serie di cloni, però ovviamente rimane ancora tutt'oggi insomma una pietra miliare nell'arco dell'evoluzione, della costruzione e della nascita di giochi di ruolo. Poi in realtà lo dico, lo cito ora solo per completezza, ma non scendo nel dettaglio perché poi ci sarebbe da fare, da aprire tutta una diatriba che al momento non mi sembra il caso di fare. In quel periodo in realtà ci fu anche un'altra tipologia di giochi, e però appunto hanno in parte hanno il DNA dei giochi di ruolo, però sono e non sono al tempo stesso giochi di ruolo, che erano i MUD, i multi user dungeon, che fondamentalmente però appunto dico sono e non sono perché hanno alcune similarità per quanto riguarda il discorso che vuoi appunto ad affrontare un dungeon, che in realtà dietro siccome erano multiplayer appunto una delle figure era fondamentalmente il master che coordinava tutta l'avventura. Per chi non sa, i MUD erano giochi di ruolo multiplayer testuali, esatto, okay. Appunto, è proprio tutto questo testuale, era la versione esatto, multiplayer con le regole del gioco di ruolo dell'avventura testuale, esatto, esatto, è proprio per questo infatti c'è il discorso sono o non sono giochi di ruolo, è proprio per questo non vuole, cioè, l'ho citato per completezza, in questo video c'erano anche i MUD in teoria, da un punto di vista narrativo interpretativo lo erano anche di più volendo, no, rispetto forse magari dal punto di vista proprio della, esatto, della concezione proprio più tecnica forse lo erano di meno, però e che poi esistono ancora oggi, cioè nel, sì, senso, sono anche in italiano, perché capita, io purtroppo non c'ho il tempo perché ne avevo iniziato uno, poi c'è il mio personaggio sta ancora là vicino al cesso della taverna, esatto, sì, finiscono sempre nella taverna, so, diciamo, e con questo si è appunto conclusa l'era oscura fondamentalmente. Qualche anno dopo ovviamente sono incominciati ovviamente ad entrare i primi personal computer nelle case, quindi dei più facoltosi, per meglio dire, quindi aumentano anche le potenzialità dal punto, sì, di vista, e proprio questo fatto in realtà è quello che segna il passaggio dall'era oscura al, diciamo, all'età del bronzo, no? dei giochi di ruolo. Ma quindi i primi nerd erano ricchi? No, più che altro il discorso è che ciò che segna il passaggio, no, è il fatto che ora questi giochi, in particolare i giochi di ruolo, potevano venire commercializzati, cioè non esistevano solo all'interno dei college, ma venivano creati da gente per girare su, venduti per girare su macchine di altra gente a casa. Sto dicendo i primi nerd erano gli studenti universitari che avevano accesso ai laboratori. Dico proprio quelli che. Ah, io secondo me chi c'aveva i soldi e si comprava il computer era più il facoltoso che era incuriosito. No. Cioè, poi dopo il nerd è venuto, cioè, il nerd di massa è venuto dopo. Però prima i ragazzi, proprio il nerd, quello proprio super, era quello là che stava nei laboratori universitari. Sì, tant'è che infatti che poteva utilizzare con gli elettrodi nella testa, però. No, che potevano utilizzare quei mainframe o quei computer che comunque ad altri non avevano possibilità. Uno di accedere, questi esempi, no? Infatti, quindi, è Richard Garriott. Esatto, non a caso. Però prima di citare appunto, che è uno che si è goduto la vita, diciamo. Prima di citare Ultima, adesso è morto? No, volevo citare un altro gioco in particolare, uno dei primi che in realtà appunto anche prima di Ultima, un gioco che non è possibile non citare, questo qua è Wizard Castle. E in pratica la cosa bella è che questo gioco di ruolo non veniva commercializzato, su, a differenza appunto come vedremo di Ultima, su supporto fisico, bensì era stato venduto con un'altra tecnica di quell'epoca che Simone sicuramente ricorderà pure, come listato all'interno delle riviste. Ossia c'era l'intero codice, tipo 500 righe di codice, e te lo dovevi battere giocare, sperando ovviamente che non venivano riportati errori nel listato dei refusi, insomma, perché se l'errore l'avevi fatto te prima o poi lo trovavi, sì, ma se l'errore l'avevano fatto loro, no, a quel punto entrava, diciamo, in gioco la tua conoscenza effettiva della programmazione, esatto, cioè o capivi effettivamente tu dove era l'errore perché cosa sapevi programmare, o ti attaccavi ovviamente prima dei corsi multimediali, prima dei corsi on screen che si facevano su 64, roba del genere, anche su Spectrum. In realtà è proprio tramite le riviste come List che noi abbiamo imparato pure a programmare, perché a volte c'erano veramente dei problemi su sti listati e in qualche maniera te le dovevi risolvere. E siccome c'avevi solo quello, non è che dici ok, spengo e carico il dischetto dopo, no, cioè Wizard, in particolare Wizard Castle, che è stato scritto da Joseph R. Power. Per quale piattaforma? Credo per ho fatto la domanda bastarda. Ma in realtà, però, comunque il fatto è che è una domanda bastarda, ma in realtà non è tanto la macchina, quanto il discorso che era appunto scritto per le riviste, era stato scritto in Basic, quindi fondamentalmente, a meno che non usava comandi particolari tipo i poke del 64, fondamentalmente non poteva in realtà girare su qualunque macchina che aveva un interprete Basic, fondamentalmente. Sì, o perlomeno magari alcuni comandi, sì, che cosa sappiamo del Basic, Basic potevano differirsi, era facilmente riadattabile, sì, trasportabile. Ovviamente sempre il solito discorso che si utilizzava un personaggio che veniva chiamato il Baldo Giovane, che doveva entrare all'interno di un castello sotterraneo, i famosi castelli sotterranei, castelli sotterranei costruito da, dal mago gnomo Zot. Che ti mette le mani in tasca e ti ha zottato qualche cosa ci si è fatto il castello per recuperare l'artefatto di turno, che in questo caso era la sfera di Zot, e sarebbe Zot, il contro Zot, quando te li riprendi ovviamente utilizzava sempre appunto il solito paradigma di Roma, forse la capisce il poco, solito però. Paradigma, le solite regole dei giochi ruolo, quindi si sceglieva anche partendo tra quattro razze: elfo, nano, umano e hobbit. Hobbit. Qua c'è sempre ovviamente innanzitutto chiediamo scusa di queste simpatiche battute, non è una battuta, è una citazione. Ma torniamo al passato, non atteniamoci al futuro o almeno al periodo contemporaneo. E in pratica qua vediamo nuovamente l'ennesima citazione per Tolkien, e poi doveva, scelta la razza, distribuire sempre i punti in diverse caratteristiche, che potevano essere sempre forza, intelligenza e destrezza. comprare anche l'equipaggiamento, e finalmente si poteva immergere all'interno di questo dungeon, ovviamente come ho detto prima, avendo scritto in precedenza in maniera corretta le 5000 passa linee di codice, perché all'inizio il gioco era proprio quello, esatto, scrivere il codice giusto, poi dopo quello compariva la scheda da bravi e cominciava il gioco. Ma tu ci scherzi, tu non sai le ore che ci abbiamo passato. Invece un altro gioco di ruolo che fu invece rilasciato, questo qua proprio sul supporto, e in particolare questa volta ti rispondo subito, una piattaforma per Apple 2, che non a caso era la macchina per eccellenza per queste cose, ad opera di Donald Brown, veniva chiamato The Wonderful World of Eamon, o anche conosciuto semplicemente come Eamon. Questo gioco ovviamente era sempre sulla scatola veniva sempre pubblicizzato come una grande avventura dove dovrai sconfiggere orribili mostri, il Baldo Giovane, e recuperare favolosi tesori. Sempre utilizzava un sistema di 3 statistiche e 5 tipologie di armi e 3, se non sbaglio, pure di armature, fondamentalmente. E poi ovviamente la cosa interessante è che questo utilizzava un sistema che poi rivedremo nel corso di tutta la storia dei giochi di ruolo, ossia più usavi una determinata arma, più la abilità associata con Oblivion. Attenzione a quello che dice, salutiamo il nostro amico che adesso ci telefonerà dicendo non state dicendo una cosa. Però in realtà la cosa per cui ricordiamo più facilmente Eamon, questo gioco, è il fatto che... Ma lo sai che è anche il nome di un rapper, lasciamo stare. Veramente c'è pure tanto per fare un'altra marchetta, pure Eamon è un dei personaggi secondari pure nel primo Dragon Age Origins, però ad opera di BioWare. Io conosco Limor. Comunque, Limor. Sì. Comunque la cosa interessante di Eamon è che aveva al suo interno un fondamentalmente un editor che permetteva di a chiunque di modificare quindi i dungeon e crearsi fondamentalmente le proprie avventure. Quindi come Oblivion. Come Neverwinter, direi. Quindi un antesignano dei toolkit per crearsi le proprie avventure. Ma questa era una grande trovata, per esempio. E quindi poi come altri giochi passiamo a Dungeon Quest, The Birth of Upsai. Rilasciato nel fammi vedere, poi è scritto anche strano. Sì, è scritto strano. Non è un errore, si chiama davvero così. Dungeon Quest, The Birth of Upsai. Ah, sì, che poi si chiama Dungeon Quest, però sì, però è storpiato apposta. Esatto. The Birth of Upsai. Ecco, attenzione, Birth of del Upshai. 1979. L'uccello di Bird. La nascita di Upsai. Originariamente rilasciato questo qua per il Commodore PET. Attenzione. Nel 1979. Poi ovviamente ebbe un successo sempre a Foscoli. Ebbe comunque un successo tale da essere poi in seguito convertito. Il problema è che infatti tu programmavi questo gioco con Fosfori Verdi, alla fine invece di scrivere Dungeon scrivevi Dungeon con la J. Cominciavi a vedere cose. Non mi stupirei. Cioè, la cosa interessante è che ebbe un successo tale e comunque venne poi in seguito negli anni successivi convertito anche per appunto Apple II, per Atari, per Commodore VIC-20, Commodore 64, insomma, abbastanza macchine fondamentalmente. Sempre in Basic pure questo? Questo qua sì, credo proprio di sì. La cosa interessante è che questo, per diciamo, siccome veniva rilasciato su un supporto, quindi comunque lo spazio era allora molto ma molto limitato, no, nelle cassette, per poter farci entrare tutto, furbescamente l'autore che cosa fece? Ti presentava la stanza, che solitamente era associata, c'era un testo in alto con un numero. E poi per sapere che cosa conteneva la stanza a livello, diciamo, di descrizione testuale, no, dovevi andare a guardare nel manualetto la descrizione associata quel numero. È una cosa interessante perché questo è anche un primo esempio fondamentalmente di comunque in quell'epoca di meccanismo anche antipirata, no? Anche perché questo, se non c'avevi ovviamente il manualetto con queste cose. Vabbè, l'abbiamo visto pure nelle puntate del calcio, che all'epoca, nell'epoca degli ultimi anni 70 e anni 80, era facile che alcuni giochi li potevi giocare col computer e con la carta. Cioè, questo è uno dei primi fondamentalmente esempi che ti faceva capire come, che poi diventerà diciamo la prassi per molti giochi di ruolo, come in particolare proprio per i giochi di ruolo il manuale è una parte necessaria dell'esperienza ludica, certo, no? Del pacchetto ludico. Proprio come oggi, uguale. E bello è che questa cosa poi verrà ripresa poi negli anni successivi anche da tutti i giochi fondamentalmente della SSI, tipo Pool of Radiance per intenderci. Poi l'altra cosa particolare era anche il sistema di combattimento. Gli autori del manuale dicevano che si erano, insomma, avevano fatto chissà quali ricerche contattando anche la famosa società per l'anacronismo creativo, che era quella di cui faceva anche parte, ricordiamo, Garriott. Cioè, fondamentalmente erano andati a parlare con gente con nerd che si vestiva in costume e nerd faceva giochi di ruolo dal vivo, fondamentalmente. Poi diciamo implementava anche un sistema che per esempio teneva conto del peso dell'equipaggiamento, e questo più diciamo equipaggiamento avevi, quindi più pesante era il tuo zaino, più fatica facevi perché in combattimento non lo potevi lasciare, te lo devi lasciare tosse. Sì, esatto, perché anche perché il combattimento appunto c'aveva, come diciamo nell'attuale per esempio Dark Souls, no, la barra della stamina, no? Quindi diciamo più mosse facevi più ti stancavi. Se poi avevi un sacco di chili di roba addosso eri ancora più svantaggiato fondamentalmente. E vabbè, le classi come sempre contemplano il chierico, il mago, tra le razze abbiamo pure il nano. Era uno dei primi giochi che nel combattimento implementava anche la possibilità di utilizzare armi a distanza, come per esempio arco e freccia, per intenderci. L'archibugio. E quindi, e quindi potevi, diciamo, ammazzare i mostri prima che effettivamente. Ma sleale. Venivi a contatto con loro, sì, effettivamente. Sleale. Allora dassero un'arma anche ai nemici. Addirittura c'era anche una funzione che permetteva, che, e questa è una cosa che per esempio D&D sin dalle prime edizioni contemplava, la possibilità per esempio di ascoltare attraverso le pareti per vedere se nelle stanze adiacenti c'erano i mostri. O c'era il bagno. No. Devo capire, c'è il bagno e ci possiamo andare. Comunque, poi in realtà anche appunto Temple of Upsai generò tutta un'altra serie di giochi o comunque cloni fondamentalmente, come The Stone of Rin, Morlock Tower, Curse of Ra e tanti altri che ovviamente non vi starò qui a tagliare. Però sappiate che della fondamentalmente trilogia proprio di Upsai, perché ne vennero poi prodotti tre in particolare, l'ultima versione risale al 1983 e fu rilasciata, anzi scusa, 1986, scusate, errata corrige, e fu rilasciata per Commodore Amiga. Quindi per dare un'idea della longevità, segnò la fine dell'Amiga, esatto. Per dare un'idea della longevità, insomma, si chiamava The Last Upsai. Ora passiamo finalmente a introdurre uno dei delle figure chiave di questo periodo. E quindi e per parlare di questa persona, ovviamente non possiamo non citare la sua prima creazione, che in realtà non era neanche la sua prima, rimandandovi, cioè, l'avevo già detto alla questa qua, ovviamente, sì, era Akalabet, esatto, World of Doom. In realtà quello che poi in seguito venne anche ribattezzato come Ultima Zero in una delle ultime, scusa, del gioco di parole, raccolte della Origin. Ovviamente il creatore era Richard Garriott, che a quel tempo era un semplice studente dell'università di Oklahoma, che utilizzava delle droghe, i mainframe anche. Mainframe e droghe. Garriott, come ho detto, adesso, era un super nerd, fan di Tolkien, di Doctor Who, quindi insomma spaziava di Star Wars, spaziava a 360 gradi, ed era ossessionato con la programmazione per computer e ovviamente i giochi di ruolo fantasy. Lui in realtà concepì diverse versioni di questo gioco. Quando ovviamente fondamentalmente ne creava una, non gli piaceva qualche aspetto e ricominciava a riscrivere proprio da zero il codice. Alla 27esima, quello che veniva conosciuto come programma D&D 27 iterazione, insomma, lo soddisfò, e quindi quello che poi venne in seguito ribattezzato come appunto Akalabet. Lui alla fine si convinse di pubblicarlo, ovviamente di autopubblicarlo, quindi cioè, lo vendeva lui, lui andava cioè non solo faceva appunto il lavoro da programmatore, ma anche fondamentalmente da PR, da venditore, tant'è che infatti lo confezionava in bustine di plastica con dentro il floppy da 5,25, lo stampato lo faceva pure lui, che faceva da copertina fondamentalmente, un foglio in bianco e nero. Poi le mappe gli disegnava la madre, no? Quindi, no, poi vabbè, questo diciamo dopo. Per Akalabet non c'era, no, ancora. Non c'erano mappe, proprio non esistevano. Ma ricordiamoci che non c'era internet, lo so che si fa strano se ti. Sì, infatti dire, andava proprio porta a porta, come detto, cioè, quando ha detto Marco, non era uno scherzo. Non è che andava sui forum a mettere i link, tant'è che infatti ne vendette solo 5 copie di Akalabet. Che sono vicini di casa, ovviamente. Una di queste però finì nell'ufficio di una società che si chiamava California Pacific, ed era una società che pubblicava software fondamentale. Diciamo che Richard Garriott ha la statistica bucio de culo 10. Sì, esatto. No, tant'è adesso... che infatti che tutto questa qua era una società che stava in Texas. Insomma, una vita ci vuole. Guarda che te cambia. Sai quanti vita, altri Richard Garriott ci saranno stati? E la persona che sono rimasti lì a vendere porta sì, a porta. E il dirigente della California Pacific fu, diciamo così, entusiasta di questo gioco, che volle appunto parlare direttamente con un colloquio con Garriott, pagandogli pure il viaggio per fino al Texas. Ma solo andata, perché sì, se non gli fosse piaciuta la chiacchierata rimandava indietro a piedi. Ovviamente, perché era intanto interessante a Galabet? Aveva sì una grafica sempre in wireframe, però già un poco più rifinita. Presentava appunto una serie di dungeon. Era pure più originale anche come storia, perché appunto mentre tutti ci avevano sempre vai a recuperare quell'artefatto in fondo al dungeon, oppure vai a sconfiggere l'ennesimo cattivo di turno, qua c'era un certo Lord British che aveva già appunto sconfitto sin dall'inizio del gioco il proprietario di questo Mountain of Doom. E però incaricava te, l'avventuriero, il giocatore, di ripulire fondamentalmente il dungeon dei tesori e relativi mostri. Quindi tu facevi il lavoro sporco che io mi sono rotto i coglioni, tu vai, ti do due spicci sì, e vai dentro al dungeon. Questo nella storia, nella storia fantasy ci sono state pre-Alanon, nella spada scionale, in realtà sì, faceva fall'altro il lavoro che lo dava benissimo pure lui, insomma. E ovviamente aveva pure in quel caso un sistema sempre, non vi sto a te ieri, di classi, tra cui c'è il famoso Bobbit. Sempre vi rimandiamo alla puntata dell'occhio del Beholder, però la cosa interessante è che sempre, visto che erano mezzi uomini, perché era passata una a tagliare, insomma, vabbè. Che facciamo sempre in parallelo, che tu vuoi sapere appunto che cosa era scritto. Era scritto in Apple Soft Basic, ovviamente per l'Apple 2. Però diciamo era abbastanza comunque complesso come gioco. Perché Garriott non conosceva Assembler, diciamo. Esatto. Tant'è che infatti, come vedremo poi, ci ritornerà per i futuri titoli. Ovviamente il nome di Calabet, tanto per livello di tanto per, diciamo, per saperlo, era ispirato sempre a Tolkien, perché è la Calabet è il quarto, la quarta parte del Silmarillion. Poi, come altre cose, aveva solo due classi, stranamente, perché potevi solo scegliere se appunto essere o un guerriero oppure un mago. Ovviamente il guerriero aveva accesso fondamentalmente alle armi più fighe, mentre il mago aveva meno poteva equipaggiare meno armi, però aveva accesso a un amuleto magico che gli permetteva, quando diceva lui, cioè quando ci riuscivi, perché potevi anche fallire nell'utilizzarlo, di trasformarti in un uomo lucertola, in un lizard man. E basta, queste sì, erano le sue magie. Sì, no, in realtà aveva anche altri incantesimi, però diciamo questa era la cosa più potente. Insomma, magari non ti ammazzava, però sai il coglione se essere diventato una lucertola. Poi il dungeon aveva 10 livelli fondamentalmente, e le varie quest che ti dava in successione Lord British erano fondamentalmente sempre in questo livello uccidi, tipo si partiva dalla creatura più stupida, poteva essere tipo il gremlin. Senti, a sto livello sì, dà una scopa dall'angoli, metti un po' fino, giù, ecco, sulla, il tappeto, tutte queste cose qua, fino a draghi e... Che è successo? Quando abbassa tutto il volume del Mac, quando ci stanno i video, falli partire così almeno li vediamo, no? Ah sì. Allora, Marco sicuramente non ne sa un cazzo, almeno vede di che cosa stiamo parlando, insomma. Questi giochi per me sono completamente sconosciuti. E infatti, okay, come possiamo vedere, infatti diciamo c'è il famoso saluto, salve folle mortale, sei abbastanza coraggioso di... da prendere la scopa in mano, esatto, e andare a pulire il dungeon, vai a pulire, vai. E infatti ti faceva scegliere, ti tirava casualmente le statistiche, come possiamo vedere, e poi ti tu te l'aggiustavi, ti faceva scegliere la classe, come visto, perché alla fine credevo essere mago oppure guerriero, e poi dovevi, prima di partire, cominciare a spendere il denaro per l'equipaggiamento. Soprattutto ricordati di comprare il cibo, perché man mano che tu, ogni avanzamento di schermata veniva consumato, quindi se però tu partivi con zero cibi, partivi all'avventura già da morto. Non potevi comprarla dopo, potevi sempre poi tornare, appunto, perché dopo che completavi una delle varie quest dovevi tornare da Lord British, che te li dava la ti dava la pacca sulla spalla e ti innalzava, diciamo, di rango, tra virgolette. Infatti partivi tipo da scudiero fino a diventare scopino ufficiale. Esatto, ragazzi, fino a diventare cavaliere supremo, fondamentalmente cavaliere dell'ammonnezza. E poi, per quanto riguarda Calabet, ovviamente, come ho detto, fu poi in seguito anche l'ultimo porting che conosciamo, è quello che appunto risale al 1987 per PC. All'interno sì, di una raccolta, e venne appunto ribattezzato però questa edizione come Ultima Zero, fondamentalmente. A questo punto però entra in realtà in gioco anche un'altra concorrenza per Garriott, perché un altro concorrente, perché ovviamente non era ovviamente l'unico che aveva pensato di buttarsi in questa avventura, perché nel frattempo era anche uscito un altro gioco di ruolo molto simile, anche come titolo era Wizardry della Certec. Però Garriott non si arrese, anzi il successo inaspettato di Acalabet gli pompò al massimo, fondamentalmente, l'ego. No, l'ego, l'ego quelli, esatto, il suo ego, esatto, diciamo, sì, almeno. E allora lui decise di creare un nuovo gioco di ruolo, però non buttando a priori tutto il codice che aveva già usato per Acalabet. Allora fece la seguente cosa: optò per ovviamente anche una mappa esterna, no, del mondo, che ovviamente lui utilizzava con uno schema a caselle, fondamentalmente a tile. E poi quando si entrava nei dungeon ritornava ovviamente la grafica in wireframe, e quindi la utilizzava a porzioni di codice, fondamentalmente, di Acalabet. Sì, sì, ma poi diversi giochi usavano. Garriott non lo scrisse da solo questo che poi è l'ultima uno, fondamentalmente, ma diciamo si fece aiutare da un amico nonché collega che era Ken Arnold, soprannominato Sir Kenneth, perché fu uno poi, diciamo, degli impiegati della Origins, fondamentalmente, e anche uno dei PNG che appariva nei vari capitoli di Ultima, perché lui metteva tutte le persone che conosceva, esatto, e schiaffava dentro la saga un po' per ripicca, un po' perché non c'è stato le balle, forse anche per poca fantasia, chissà, e forse sì, magari poca fantasia, vedere una persona può descrivere meglio Ultima, visto appunto gli accordi precedenti. Questa volta fu pubblicato dalla California Pacific, l'azienda con cui Garriott aveva stretto accordi, la quale società però aveva Fortuna 3. Sì, infatti. Però prima di questo, la cosa interessante è che è un gioco che comunque spazia molto, non solo dal fantasy, ma anche dalla fantascienza, perché poi a un certo punto devi pure andare nello spazio per diventare un asso, appunto, spaziale, distruggendo tutta una serie di astronavi che sembravano tipo dei TIE Fighter, poi tornare indietro sulla Terra, che poi non era in realtà la Terra ma era il mondo di Sosaria, che ricorrerà poi nei primi tre Ultima, e andare nel castello di Lord British e farti dire dalla principessa la locazione della macchina del tempo, in modo da tornare indietro nel tempo a prima che il cattivo possa diventare immortale e ucciderlo. Certo, questo, diciamo, era più o meno lo scopo di Ultima. Io invito non i super appassionati che già conoscono la storia, ma quelli che comunque sono incuriositi, di andarsi a vedere i video che noi linkiamo nelle note dell'episodio, perché in effetti allora è difficile per chi è già vissuto nell'era del 3D, Giuseppe, io penso insomma sia abbastanza chiaro, concepire un gioco in 2D può essere difficile ma non impossibile, ma un gioco in 2D senza modalità grafica, perché qui stiamo a parlare veramente i giochi in basic, in realtà è già anche più cioè rispetto, mentre appunto in tutti quelli che avevo visto prima e anche in Agalabet tu comunque avevi solo una visione diciamo in prima persona da stile diciamo esatto. Finto FPS, qua già lui si era ingegnato per utilizzare le due dimensioni con quei pochi fondamentalmente mezzi grafici che aveva. Allora diciamo che alcuni non computer, ovviamente sì. Personal computer, avendo che ne so, i colori per esempio, magari chi ce n'aveva 8, chi ce n'aveva, esatto, chi ce n'aveva 8, chi ce n'aveva 16, mm-hmm. E comunque magari maggiore numero di righe, di colonne, sì. O ancora meglio maggiore numero di kbyte, perché ovviamente poi quello faceva la differenza. E si poteva ovviamente anche sempre tramite gli asci dare già un'impronta estetica grafica diciamo molto più piacevole, molto più colorata, molto più, però è ovvio, noi lo vediamo, io un po' con molti di questi me li ricordo a suo tempo, però se veramente dovessi mettere i panni di un 25enne o ancora meglio magari un 14enne, o ti viene veramente la curiosità, perché altrimenti non, cioè nel senso è difficile, o ci sputi proprio. No, perché è difficile veramente anche spiegarlo, esatto, cioè nel senso è da vedere, e se sei curioso insomma lo esplori un pochino per capire, perché comunque ti viene veramente il gusto, anche di perché richiede, sono giochi iconici, richiede proprio al pari dei giochi di ruolo cartacei, richiede molto sforzo di fantasia, sì, no? Sì, esatto. Funziona, cioè, riuscire a capire che questo, per esempio, che stiamo vedendo adesso è una città con l'armeria, negozi, esatto, il pub, la scuola di magia e il trance, che non so, spero che non sia. Si può andare a trance, è che questi sono, diciamo, questo è un laghetto, penso, esatto. Quelli sono alberi, quelle palline esatto. Verdi, no? Esatto, come quella specie di cose circolari sono il prato quando tu stai nella mappa del mondo. Poi insomma, diciamo, vabbè. Il successo di ovviamente di Ultima 1 fu tale che oltre all'Apple 2 Plus fu anche poi in seguito nel corso degli anni, ovviamente a livello di coordinate cronologiche siamo già nel 1983, proprio il rilascio di Ultima 1 per Apple 2 Plus. Poi diciamo dal 1986 il gioco fu anche, addirittura quando già Garriott aveva preso pratica con l'Assembly, esatto, fu riscritto anche in Assembly. Questo era dovuto sempre alla mania di la mania di perfezionismo e di nerditudine di Garriott nei confronti della programmazione, perché ovviamente sapeva benissimo che il BASIC, essendo un linguaggio interpretato, era poco performante, esatto, rispetto a un gioco scritto in Assembly. Spieghiamo un attimo sta cosa, perché in realtà appunto come diceva ascoltatevi l'ultima puntata di Archeologia Informatica, dove abbiamo parlato di linguaggi di programmazione, perché lì si fa bene la differenza, cioè si spiega che cos'è un linguaggio interpretato e viceversa. E la cosa interessante non è tanto il fatto che ovviamente il BASIC era un linguaggio chiaramente non performante, quindi che ovviamente aveva una sua lentezza già di base per ovvie ragioni, ma il fatto che questi giochi poi più diventavano complessi e più immaginate le righe di codice, che in BASIC si moltiplicavano ancora più, perché erano codice cioè righe di comandi poi alla fine, che diventavano una cosa estremamente mostruosa, cioè nel senso i comandi in sequenza, perché erano un linguaggio di tipo procedurale, esatto, quindi insomma, cioè nel senso sarebbe divertente se fosse possibile, o se magari in qualche maniera in qualche testo o in qualche vedere, che ne so, il codice del primo Ultima. Ma io penso che comunque si trovi in rete, non ho cercato per la verità. No, vabbè, però magari penso che se le troviamo per le note dell'episodio non vi promettiamo niente, chiaramente, quindi mentre che ascoltate non ve lo aspettiamo. Niente. Noi non abbiamo mai promesso niente, insomma, neanche il fatto che sapevamo le cose abbiamo mai promesso, insomma. No? Comunque, per chiudere diciamo con Ultima 1 in particolare, quindi il successo fu tale che poi in seguito venne anche rilasciato pure per altre piattaforme, tra cui ricordiamo in particolare anche quello sempre per Commodore 64, è per MSX, quindi non solo fu un successo nell'ambito degli Stati Uniti, ma bensì è proprio arrivò fino ai computer del Giappone, fondamentalmente, perché il MSX tirava molto di più. Potremmo farne un gameplay, un video gameplay, Marco, se lo troviamo. Ma anche no. Allora, poi, non c'hai proprio il senso, come avevi niente. Detto tu, niente, ovviamente no. Vabbè, lo faccio con Peppe allora. dopo il successo di Ultimo 1, ovviamente c'era la società California Pacific non se la passava bene, purtroppo. C'erano tre infortunati al momento. Dici magna magna, ed era sull'orlo della bancarotta. Fortunatamente Garriott nel frattempo aveva trovato un altro publisher, che poi in realtà farà giochi anche di tutt'altro genere e si espanderà abbastanza. Sto parlando di Sierra Online. Sierra Online pubblicò l'unico gioco di Ultima, che fu Ultima 2 Revenge of Enchantress, l'anno dopo, nell'agosto del 1982. Perché ricordiamoci che allora i giochi uscivano a scadenza annuale. E fu anche il primo Ultima in cui venne soddisfatto una delle richieste pressanti di Garriott, che appunto per i problemi finanziari di budget la Pacific non aveva potuto soddisfare, ossia quella di includere quelli che vengono chiamati filis per i giochi della Infocom, cioè degli oggetti aggiuntivi, certo. Esatto, dei gadget, delle patacche all'interno della scatola. Ovviamente, no, tu guarda, sto vedendo il video, guarda il drago, sembra sì. Vero. Sembra vero. Nel caso di Ultima 2 Revenge of Enchantress, diciamo, questo filis era la mappetta in diciamo fatta con stile, cioè su stoffa fondamentalmente, non su carta, stile mappa antica, no? Ultima 2 anche si svolge ovviamente posso dire una cosa, sì? Scusa, adesso Marco ha detto il drago che, sì, che sì. Guarda, sembra vero, roba del genere. Ora guardatevi ovviamente il link che vi metteremo sul video di Ultima 2. Allora, se voi ancora vi immedesimate, quando vedrete quella scena del drago che piano piano sale e poi esce il fuoco che sputa fuoco, roba del genere, per noi dell'epoca, quindi di quella generazione là, no, non è che era realtà, cioè era il massimo del realismo, nel senso che vedevi questa cosa e rimanevi folgorato, dicevi guarda i colori, guarda che grafica, dicevi, sputa il fuoco, paura, cioè, era no, ma veramente, cioè a me quella è una cosa che mi fa veramente dispiacere, è impossibile replicare il senso di meraviglia, che l'ho detto mille volte questa cosa, ma è così, cioè non c'è niente da fare. Io penso che come ha detto Morgan, magari ha detto tante volte, quando c'era quel famoso famosa schermata di Natale del Commodore 64 che tu vedevi nei negozi, tu passavi davanti ai negozi e c'era questo il televisore col Commodore 64 attaccato e l'animazione di Natale, dicevi cioè ma che c'è, cioè, spettacolare, no? In realtà se lo vedi oggi è una zozzeria, no? Nel senso, però Ovviamente Ultima 2 si era già, mi pare, passati dall'Apple Basic già all'Assembly, ovviamente. Penso proprio di sì. Era sempre una solita storia del vai a trovare, scova un modo per fare fuori il cattivo finale. In questo caso era l'amante del cattivo di Ultima 1. Non vi spoilerò neanche come si faceva, però, perché vi lascio ovviamente a voi il piacere un domani di andarlo a giocare, semmai di giocarlo, se volete. Però sappiate comunque, sempre per il discorso di Garriott, che gli piaceva tutta questa storia anche dei viaggi temporali, anche qua si viaggia attraverso le varie ere, in particolare anche della Terra, proprio perché questa cattiva, fondamentalmente, per vendicarsi dell'eroe che aveva ammazzato il suo amato in Ultima 1, fondamentalmente viaggiava nella Terra del futuro, scatenando rompendo gli equilibri della guerra fredda, quindi c'era fondamentalmente una guerra nucleare in atto e l'umanità veniva spazzata via, e tu dovevi trovare un modo ovviamente per viaggiando nel tempo, esatto. E poi il terzo capitolo Ultima 3, Exodus, non è stato sviluppato, non è stato pubblicato da Sierra Online, non perché la Sierra era fallita, perché ce la ritroveremo per altri giochi, ma per diciamo accordi economici si vocifera tra Garriott e appunto i dirigenti, perché i dirigenti non avevano messo in conto che avrebbero dovuto pagare le royalty anche a Garriott, anche per i capitoli successivi. Certo. Pensava che, diciamo, che con i proventi di Ultima 2, diciamo, non finiva lì, no? E ovviamente Garriott, allora, a questo punto, per pubblicare Ultima 3, decise di abbandonare Sierra Online e di mettersi, la cosa bella, in proprio, assieme a il suo amico e i suoi genitori, fondando quella che poi diventerà la Origin System. E per quanto riguarda ovviamente la software house, sì, al quale l'evoluzione dei computer deve tantissimo. Oltretutto Ultima 3 in particolare influenzerà anche molto quello che poi vedremo essere i giochi ovviamente di ruolo, i JRPG, perché ovviamente da Ultima 3 prenderanno nascerà ovviamente le idee, nascendo così ad esempio la serie di Dragon Quest, e poi ricordiamo che da Dragon Quest trae pure ispirazione di rimando Final Fantasy. E poi, come altre cose, ovviamente Ultima 3, sempre per dare le coordinate temporali, fu pubblicata sempre nel 1983. La cosa bella è che nel frattempo Sierra però non si era data per vinta, aveva pubblicato un suo gioco che è molto raro, che viene chiamato Ultima Escape from Mount Dash, che appunto aveva però di Ultima solo il nome, e l'aveva pubblicato per VIC-20. E non era ovviamente programmato da Garriott, ma da un certo Kate Zabbalui, che poi fu ucciso per questo. No, la cosa bella è che poi ovviamente Garriott si incazzò moltissimo, però siccome non aveva ovviamente il feeling dei giochi di Garriott, fu un fiasco questo gioco, quindi ci si è ammazzato da solo. E la cosa bella è che oggi ovviamente anche lo stesso Garriott non ne riconosce proprio l'esistenza, e anche tutti ovviamente si fa finta di averlo dimenticato. Quali? Tutti i libri che comunque parlano ovviamente di questo gioco non lo bestemmia, cioè, di Ultima non ne fanno, non lo bestemmia neanche. Mi ricorda un po' la storia alternativa di Atari, Marco, sì. Lo ricordi? Cioè quella persona che diceva che aveva fondato, esatto, insieme a Bushnell. Ah, ma sì, esatto. Vedi, quando abbiamo contato Bushnell io potevamo dire, vedi che stupidi che siamo stati. Ci sarà un'altra occasione. Poi Ultima 3 comunque, che non so se avevo detto prima, però fu rilasciato, questo fu, scusa il gioco di parole, l'ultimo capitolo di Ultima uscito per Apple 2. Utilizzava anche una per il sonoro, in particolare proprio una scheda dedicata audio, la Mockingbird, cioè fu il primo gioco che appunto come add-on richiedeva una scheda audio per riprodurre alcuni suoni sintetizzati. Ricordiamo, la Origin era pagata dalle nostre grandi produttrici di software, di hardware. No, considerate che questi poi erano giochi programmati, o perlomeno inizialmente, come abbiamo detto, concepiti in Basic, mm-hmm, poi dopo in Assembly, però voglio dire utilizzavano la grafica che era quella, la grafica dell'Apple 2. Sì. Nella conversione per Commodore 64, mm-hmm, nonostante il Commodore 64 avesse poi delle maggiori, sì, potenzialità, indubbiamente, ciò nonostante comunque erano castrate, mm-hmm, dal fatto che comunque, sì, l'estetica era praticamente quello stesse. Che stiamo soprattutto ora vedendo qua, che è la fase di creazione del personaggio, noteremo subito che c'è sì, che di Ultima 3 c'è un'altra innovazione, come avete scritto entry 1, perché Ultima 3 è il primo gioco della serie Ultima dove viene implementato questa volta un party di avventurieri, non sei più da solo. Questo perché appunto nel frattempo, come avevo detto, c'era già la concorrenza con l'altra serie, quella di Certech, che era Wizardry, perché Wizardry sin dal primo capitolo invece aveva avuto questa genialata di utilizzare un party di giocatori. Quindi Garriott ovviamente disse: lo sai che c'è quest'idea, sta tirando, mo la faccio pure io, usiamo, no? Sì. Esatto. E poi come altre cose direi che possiamo sì, Ultimatore ovviamente aveva anche un sistema di combattimento tattico abbastanza profondo, dove se anche tu perdevi molti secondi a, senza immettere nel parser i comandi per attaccare eccetera, automaticamente perdevi il turno e i mostri cominciavano ad agire, quindi diciamo, esatto, quindi insomma non c'era la pausa tattica, esatto. Poi ovviamente c'era tutta una serie, diciamo, di... c'erano i turni, ma i turni sì, non erano infiniti, cioè nel senso che e quando si andava si passava all'esplorazione dei dungeon, erano sempre sì con la grafica in 3D, però non era più solo semplice wireframe come anche penso che c'è più avanti, ma proprio questa volta c'erano le pareti colorate e tutto, quindi proprio i vari modelli, modelli erano riempiti. Infatti qua possiamo vedere il combattimento. Quindi, i combattimenti sono dei pupazzetti che si muovono. Sì, è proprio come però tattico. Ciò non significa anche perché questo combattimento proprio un maggior valore tattico. Anche perché ricordiamo che anche lo stesso Dungeons and Dragons in realtà nasce come sistema di come add-on del gioco di miniature fantasy Chainmail, che era proprio un sistema per riprodurre scontri di wargame fondamentalmente. E poi vedete, cioè, siamo passati automaticamente dalla fase di combattimento a quella di esplorazione in tempo fondamentalmente zero. Ci sono giochi che oggi ancora non capiscono. Vabbè, sempre Exodus, sempre c'era un cattivo che la cosa più bella, perdonatemi se faccio spoiler perché mi è sempre rimasta impressa questa, a differenza di tutti gli altri giochi, non era il classico questo stregone o guerriero malvagio, no, qua invece si scopriva essere questo cattivo un computer, sempre perché Garriott aveva queste trovate da nerd, e tu per poter disattivarle, cioè sconfiggerlo, cioè spegnerlo, disattivarlo, dovevi riuscire a trovare quattro schede perforate da inserire anche in un determinato ordine questo computer, e in questa maniera, appunto, si chiama Exodus, e in questa maniera tu lo sconfiggevi. E per trovare la locazione di queste quattro schede perforate dovevi riuscire a trovare nel mondo di gioco quello che veniva chiamato il signore del tempo, il Time Lord. Quindi anche piccoli ammiccamenti a Doctor Who. C'è il dottore. C'aveva pure la cabina del telefono, magari. C'aveva. Ultimo, ovviamente, Ultima 3 aveva venduto alla fine piazzato ben 120.000 copie. Che un po' è come vendere milioni di copie oggi, insomma. Ed insomma è considerato tuttora come uno dei migliori giochi della serie, tanto da essere poi pure convertito anche per NES, per il Nintendo 8-bit in Giappone, quindi cioè, anche la se prima con qualche volta modifica se sì, vabbè, ovviamente più Ultima. No, anche perché per esempio questi giochi di Garriott, come abbiamo visto sotto, c'è il parser che comunque richiede una tastiera dove tu vai a digitare, certo, poi il comando A per l'attacco, oppure quando parli con i popolani sin da Ultima 2 devi scrivere, diciamo, le keyword, le parole chiave, un po' come nei parser delle avventure grafiche, no? Ovviamente tutto questo come la navi a trasportarlo nella versione per NES, dove ovviamente solo sfruttare i tasti del controller, è brutto, sì. E quindi dove, diciamo, avevi una serie di menu fissi, no? Dove potevi scegliere solo alcune opzioni. Menu radiali, qualcosa del genere. No, radiali, semplicemente classici menu. Attendine, esatto. Okay. Ma appunto ora passiamo al diretto concorrente della serie Ultima, che era Wizardry. Il primo Wizardry che conosciamo appunto è Wizardry The Proving Grounds. Della Certec. La Certec era una società che era stata fondata da Robert Hooded e Norman Sirotec. Qui Certec. Fondamentalmente il primo titolo, anche questo fu pubblicato come piattaforma per Apple II, in particolare nel 1981, si chiamava Wizardry, e poi sotto doveva spuntare il sottotitolo, che il primo era Proving Grounds of the Mad Overlords. L'avevo già detto appunto, a differenza di Ultima, c'era la possibilità di utilizzare un party, scegliendo ovviamente per ciascun personaggio tra 5 differenti razze, che era tipo umano, elfo, nano, gnomi e hobbit ovviamente. Noi Hobbit. Qui era spudoratamente sì, Hobbit. E 4 classi: guerriero, mago, sacerdote e ladro. E poi per la prima volta potevi anche scegliere l'allineamento morale, ossia buono, neutrale e cattivo. C'era anche la fortuna, vedi, qua c'è il bucio del cuore. Sì, sì. Sì, è uno dei, in realtà le stats sono 6, sono tipo, se vedi, forza, pietà, vitalità, agilità, fortuna e così via. Ovviamente il fatto che tu sin dall'inizio ti creavi un gruppo cambiava di molto le dinamiche di gioco, perché una cosa magari ti facevi un gruppo dove ti mancava, che so, il sacerdote, quindi avevi problemi per guarirti, piuttosto che un party, diciamo, più bilanciato, no? E ovviamente dovevi appunto tenere in considerazione sin dalla fase di creazione tutte queste cose affinché diciamo, riuscire alla fine ad arrivare all'ultimo livello del dungeon. Quindi al giocatore sin dall'inizio appunto veniva chiesto di prendere importanti decisioni ancora prima appunto di cominciare la partita, fondamentalmente. Una delle cose che ha sempre, a differenza di Ultima, caratterizzato la serie di Wizardry è che sin dal primo si tratta di uno dei diciamo il Dark Souls di quell'epoca, fondamentalmente, cioè era tra i giochi di ruolo più tra la serie di giochi di ruolo più difficili in assoluto. Poi implementava anche un'altra cosa interessante, ossia le classi ibride. Cioè, se per esempio se ti facevi una classe mago sacerdote, questa qua era il bishop, il cardinale, fondamentalmente. Oppure c'era per esempio il samurai, che era tipo che fondamentalmente era un mago guerriero. Oppure c'era anche per esempio il ninja, che era fondamentalmente il guerriero ladro. No, il guerriero ladro. Esatto. E poi la cosa bella è che per avere accesso a queste classi dovevi avere determinati prerequisiti, tra cui anche per esempio quell'allineamento particolare, perché per esempio i ninja potevano solo essere fatti da personaggi malvagi, per esempio. Oppure per esempio i samurai non potevano essere malvagi, ma dovevano tipo mantenere la neutralità. Questo sistema, diciamo, di classi di upgrade, che vengono chiamate classi di prestigio, poi verrà in seguito ripreso anche nell'85 dalla serie di cui tratteremo, The Bard's Tale. Poi la cosa molto bella, che poi anche lo stesso Garriott in parte copiò pure da Wizardry, era il sistema di magie, perché non era semplicemente hai la magia, usa il tasto quando ti serve per lanciarla, come fa Marco adesso. Ma qua in Wizardry, per lanciare la magia tu dovevi sapere il nome dell'incantesimo. Tipo c'era una magia che si chiamava Duma Pick, che dovevi scrivere, che ti diceva qual era la posizione del personaggio, del giocatore all'interno del dungeon. Oppure la magia Malor, che ti consentiva di teletrasportarti, che ti prende il controllo. E la cosa bella è che queste, ovviamente, i nomi di queste magie con le relative descrizioni erano sempre all'interno del manuale cartaceo del gioco. Quindi ritorna sempre il discorso del sistema anche di protezione del manuale, che è una parte indispensabile di tutta l'esperienza. Ovviamente, come avete visto nella navigazione, c'era sempre una grafica in wireframe, e i dungeon però erano sempre mappati su una griglia come stanze di 20x20. Oltretutto, ecco, una cosa che con l'occasione, infatti ho visto la grafica in wireframe, che questi giochi all'inizio non avevano un sistema di automapping, quindi tra le skill richieste dal giocatore te la dovevi disegnare. Esatto, c'era pure la probabilità di cartografo. In particolare appunto Wizardry, sapendo già che comunque la griglia di ogni livello era sempre di ogni piano del dungeon era sempre di 20x20, comunque riuscivi su fogli e quadretti riuscivi facilmente a mappartelo, però comunque anche questo era parte del piacere di ma anche giocare. Con l'avventura testuale la cosa sì. Non ovviamente non vi voglio tediare sempre con le solite storie, però sappiate che anche qua c'era un mago malvagio da andare a sconfiggere. La cosa che invece vi voglio sempre dire è che a differenza della serie di Garriott, che era stata scritta in Basic, Wizardry, almeno i primi capitoli, erano stati realizzati in Pascal, sempre per Apple II. Perché purtroppo i programmi in Pascal richiedevano come base 48k per funzionare, praticamente di base mi pare che non ce li aveva l'Apple 2, praticamente chi è che doveva giocarlo doveva pure procurarsi la famosa scheda di espansione della RAM. Almeno questo fino al 1979, quando ovviamente Apple rilasciò l'Apple 2 Plus, che invece aveva più memoria apposta per il gioco, eh? Esatto, sì, vabbè, questo diciamo è una cosa collaterale. Ma chissà poi questa scelta del Pascal, è curiosa. Sì, hanno deciso di fare un Pascal, lui ha fatto un Basic e lui fa un Pascal. Sì. Vabbè, può essere che Wooded e Greenberg magari sapevano più erano più skillati a programmare in Pascal, sì, certo. Probabilmente. Senza dubbio è così. Poi a parte vabbè, l'annosa appunto questione morale, che se diciamo confrontiamo Ultima, almeno i primi capitoli di Ultima Wizardry, nasce ovviamente la diatriba: cos'è meglio se utilizzare, cioè cos'è il vero gioco di ruolo, se essere al controllo di un solo personaggio oppure di un party, no? Che sin da allora si delineava appunto con questi due prodotti. Diciamo, passiamo ai seguiti di Wizardry, che il secondo capitolo e il terzo erano rispettivamente The Knights of Diamonds e The Legacy of Lil'Gaim, che vengono rilasciati rispettivamente appunto in contemporanea, uno nell'82 e poi l'altro nell'83. Però appunto a differenza dei giochi di Garriott, dove Garriott comunque era uno che ci piaceva appunto scrivere righe e righe e righe di codice, quindi sai che c'è gran parte comunque del codice me lo scrivo ex novo da zero, invece quelli di Certec erano molto più conservatori. Infatti non so se avete visto che tra questa schermata esatto anche come sprite e quelle di Wizardry 1 non cambiano praticamente qui è fisso, loro invece hanno praticamente utilizzavano più o meno riciclavano lo stesso engine per tutti i vari capitoli. Vabbè, poi è quello che hanno fatto in tanti, pure SSI faceva così. Sì. Poi la cosa bella è che una cosa che poi infatti anche lo stesso Garriott utilizzò è il fatto che tu ti potevi trasportare i personaggi dal primo capitolo. In particolare sto parlando adesso che stiamo guardando Wizardry, dal primo capitolo di Wizardry te lo importavi quando cominciavi il secondo e così via, quindi Mass Effect esatto. Non ci inventano niente, sì. Però la cosa bella è che all'inizio Wizardry fece una scelta che a livello di politica commerciale era completamente sbagliata, cioè non potevi cominciare il secondo se non avevi il salvataggio dei personaggi del primo. Complimenti, bello, bello. Genio. Ovviamente questa cosa nelle release successive fu modificata, ovviamente, perché peccato non esisteva internet ancora, ricordiamola sta cosa. No, bestemmie su internet più che altro. No, più che altro perché ti prende viene scritto. C'era ovviamente c'era anche comunque muori dopo, però uno svantaggio, cioè muoio quando anche sempre il discorso che era un gioco difficile, anche cominciando con un party ex novo, no? E non importato preimportato dai capitoli precedenti, ovviamente era un party più scarso rispetto a quello ovviamente che aveva completato il gioco precedente, quindi magari aveva delle statistiche più alte, dell'equipaggiamento migliore. Giuseppe, comunque complimenti a quelli che hanno fatto i filmati, che c'è stato 12 minuti di schermata. Sì, mi sa che non è che forse è la colonna sonora questa, che ne so. Sai quelle cose statiche. Può essere. In effetti è tutto quanto così. Eh sì, allora se c'è qualcosa, vabbè. Vabbè, dai, poi ve lo cercate, insomma. Sti cazzi ve lo cercate. E anche per, in particolare, appunto, il terzo capitolo è quello veramente più difficile tra tutti. Io l'ho detto, metti il terzo capitolo. E questo sì. È il terzo capitolo. Allora vedi. Tant'è che infatti in quel periodo cominciarono pure a uscire dei mini software scritti da qualcuno che erano, diciamo, degli antenati dei cheat, dei programmi, no, degli antivirus per barare, fondamentalmente, perché ti consentivano di modificare il file di salvataggio, no, per avere statistiche vetrini, più elevate, esatto. L'action replay delle antelitte, uno di questi programmi che si chiamava Wiz Plus, da Wizardry ovviamente, perché lavoravo sui salvataggi di Wizardry, veniva addirittura venduto a ovviamente, no, ma non da Certec, ma da un'altra, dai piratoni, da un'altra società, per ben $40 all'epoca. Mortacci. Da una compagnia, appunto, si chiama Datamost. E la cosa bella è che ovviamente Certec un po' si incavolò di questi programmi. Ma perché non ci abbiamo pensato noi? Per quello si sono incavolati, mica per altro. Avete messo il quarto, la gente si ricompra, però lo fa noi. Il quarto, che è Wizardry for the Return of Werna, che era il cattivo del primo, ovviamente fu rilasciato nel 1987, siamo ancora. E anche questo, diciamo, è abbastanza complesso come gioco. E la cosa bella è che è uno dei primi che implementa anche diversi finali multipli. Quindi Mass Effect non si inventa niente. Esatto. Niente. In cui, diciamo, è veramente difficile riuscire a ottenere quello migliore, anche perché alla fine ti dava pure un certo rank, che era, il rank massimo era quello di Wizardry Grandmaster. Il gioco, ovviamente, la serie Wizardry, come ho detto, da Apple II viene in seguito anche trasposta per Commodore 64, per MS-DOS, anche per le piattaforme sempre del Nintendo 8-bit. In particolare, diciamo, i primi tre che vengono rilasciati col nome di Wizard Trilogy. La cosa bella è che piacque così tanto ai giapponesi che vennero prodotti solo per il mercato giapponese tutta una serie di spin-off, che praticamente gli ultimi girano anche tipo su Windows 95 o, insomma, su sistemi operativi, diciamo, tra virgolette moderni. Quindi, insomma, Wizardry comunque è una serie abbastanza lungimirante, per certi versi quasi anche più di Ultima. A questo punto noi passiamo però da l'età del bronzo, siamo anche entrati in piena Silver Age, e con in particolare un gioco che viene chiamato Telengard. Non so se puoi mettere il... Esatto. Ah, sì, ma noi mettiamo tutto qui. L'apposita videazione, ci metta l'apposita videazione, signor Marco Gualdi. Telengard, che è un po' come Teleton del gioco di ruolo. Eh sì, è Telengard. In realtà, diciamo, questo un prototipo di Telengard, che veniva chiamato, era in realtà, perché era fatto dalla stessa persona, era il famoso D&D, se vi ricordate, per PDP-10. D&D. Sì, esatto. Solo che lui giustamente non poteva venderlo come D&D, perché altrimenti arrivava la TSR con gli avvocati. E si incazzavano. E allora, quando poi lo pubblicò nel 78 per Commodore PET, invece lo chiamò appunto Telengard. Questo non credo che sia la versione del PET, comunque. No, c'è qualche colore in più. Ma questo secondo me è Apple II, comunque. Dai tipo di caratteri è l'Apple II. Vai, scusa. Sì, in realtà, diciamo, c'è poi anche un remake pure per Windows, quindi Windows è DOS, quindi penso che sia questo è DOS, quello per DOS sicuramente. Non lo so, non lo so. Vabbè, ma anche sti cazzi, comunque. La cosa bella di Telengard. Guarda le animazioni, guarda le animazioni. Sì, ma la cosa bella è che in tempo questo gioco, l'avventura andava giocata in tempo reale, cioè uno avrebbe dovuto farsi una tirata dall'inizio fino alla fine del gioco. Il calcione di salvataggi? Esatto, che bello. E se tu tipo anche dovevi farti una pausa per andare in bagno, non c'era possibilità di fare, cioè, la pausa fisica, cioè a un certo punto potevi anche tornare e trovare il tuo personaggio morto, perché c'era un nemico vagante che non c'era la stanza dove chiuderti dentro, magari no è eccesso, però purtroppo devi lasciarlo fuori. Ma cioè è assurdità queste cose, cioè, vabbè, sono questo è peggio di Dark Souls comunque. Sì. Ora prendi World of Fargoal, che è l'altro contemporaneo, come gioco che stiamo andando a guardare. Questo qua è del 1982 e la prima versione è per Commodore VIC-20, anche se in realtà l'anno dopo fu portato anche sul 64. È sempre appunto questa tipologia che, se guardate, è molto e non credo che questo sia questo di... 64, infatti, sì. Successore ovviamente del genere roguelike, fondamentalmente. La cosa bella è che di Sword of Fargoal è che implementava la cosiddetta Fog of War, la nebbia di guerra, cioè che quando muovi il tuo personaggio in realtà avevi solo una porzione attorno al personaggio, che andavi esattamente a vedere. Poi man mano che ti muovevi si scopriva il resto della mappa. Però nel frattempo i mostri comunque esistevano, si muovevano e si potevano anche muovere, quindi poi potevi anche incontrarteli, andarci a sbattere contro, fondamentalmente. Anche poi pure il sistema di battaglia era molto intuitivo, perché per combattere dovevi appunto sbattere contro il mostro, e quando ci sbattevi è come se tu avessi fatto l'attacco, fondamentalmente. Vabbè, si chiama Sword of Fargoal perché era sempre il discorso che c'avevi minuti di tempo per arrivare nell'ultimo livello del dungeon e recuperare questa spada di Fargoal e vincere il gioco. La spada di Fargo. Ho trovato la spada, mo che ci faccio? La cosa bella è che il creatore, cioè Jeff McCord, e ha pubblicato anche un'ultima versione proprio in questi anni per iOS come remake, e se non sbaglio addirittura anche sul Mac App Store, perché va tanto, comunque da iOS è facile da tradurre. Poi altro titolo che possiamo passare avanti è Dungeons of Dagorath. Dungeons of D&D, anche questo è un D&D. D&D, c'ha ragione. La cosa bella è che sia Dungeons of Dagorath che pure l'altro accanto, che era Tunnel of Doom, se non sbaglio, erano dei giochi per una nicchia particolare di console, di computer, perché questo computer che stiamo andando a trattare in realtà aveva un catalogo software abbastanza ristretto. Sto parlando, Simone, del Texas Instruments TI-99 4A, esatto. Anche perché la stessa Texas, se ti ricordi, era quella che non ti forniva tools per lo sviluppo, perché secondo la loro policy tu dovevi comprare solo il loro software. Se ti ricordi, non c'era molti linguaggi di programmazione come Texas Instruments era anche quello del grillo parlante, mi sembra. Non mi infatti non a sì. caso tira la corda anche su quello però era riprova un gioco di ruolo anche qui. Vediamo anche questo, ovviamente sempre con grafica wireframe. Esatto, sì, ricordava molto qualcosa sia Calabret. Mi ricordo sul list che i programmi PT 994A erano veramente pochi. Sì. E quando c'erano quei pochi che avevano il text sono contenti perché finalmente c'erano qualcosa da smanettare. Insomma. Sì, questi sono i due RPG per computer più famosi per il Texas, fondamentalmente. La cosa bella è che aveva se guardate non c'è una esatto, vedete questo cuoricino pulsante. È la vostra vitalità, non c'è tipo una statistica che dice punti salute 15, 14 numerica che decresce, ma era indicato dal pulsare del cuore. Più danni prendevi, più il tuo cuore putum, putum, putum, pompava e non schioppava. E il bello è che diciamo, la pulsazione poteva, il battito poteva anche aumentare a seconda delle, appunto, di quante azioni, di quanto velocemente ti spostavi, di quanti attacchi facevi. Allora, quindi è anche un malato di cuore, esatto, quello che, cioè, poteva, sì, morire di corsa. Sì, questo, diciamo, questo gioco era l'unico, sì, gioco di ruolo dove morivi di infarto. Sì. No, è interessante, diciamo, un approccio originale. Sì, no? Beh, no, no, un approccio, sì. Anche se è molto caotico, perché insomma dovevi sempre, sì, guardarti. Già abbastanza cosa minimale, sì, come. Per certi versi è anche fuorviante. Sembra, no? Quasi un escamotage, diciamo. Non so, prendi, quale tipo di problema, ma sicuramente. Prendi anche tu, Thanatos Doom adesso? Ah, sì, no, ero affascinato dalle immagini, sì, di questo meraviglioso gioco. Di questo gioco che mi stava facendo veramente. Sì, ipnotizzare. Ipnotizzare, cioè, sì, ero dentro me stesso. Ma vediamo questo splendido gioco. Sempre da Texas Instruments. Sì, sì, andavi sempre dritto. Thanatos Doom, oltretutto, è uno dei giochi che poi. Bei colori, ritornò anche nella famosa raccolta. Questo pure che è 64. Della SS, no, Texas Instruments. Ah, sempre Texas Instruments. Sì, erano i due giochi, okay, sì, scusa. Famosi. Anche questo ovviamente prende sempre elementi da Wizardry e Ultima, in particolare Ultima 3. Proprio alcuni c'è proprio il feeling dei giochi di Garriott, questo qua. La cosa bella è che questo qua è stato uno dei primi giochi di ruolo ad avere un automapper incorporato, cioè teneva, cioè la mappa si andava via via, si memorizzava da sola. Ma erano casuali? Esatto. No, questo era tutto, quindi era più facile. Non era un roguelike, no, anche perché sul Texas Instruments, non per cosa, su quella macchina non ci potevi pure mettere, ti metti a far coatto, esatto, sul Texas Instruments. Tu lo sai bene, però, come vedete, la grafica vettoriale però è colorata, sì, e beh, attenzione. Aveva solo tre classi, che porte colorate disponibili, diciamo, per il personaggio, cazzi, che era guerriero, mago e ladro, e in più però c'era una classe speciale che è chiamata l'eroe, che era ovviamente disponibile solo dopo diverse vicissitudini, in realtà diverse queste vicissitudini. No, allora a questo punto ci fermiamo, perché c'è ovviamente la pausa, come di consueto, tra la prima e la seconda parte del Barnett College, e ho chiesto, come al solito, a Peppe, che ha praticamente pianificato l'intero episodio del quale è relatore, gli ho chiesto a Peppe che brano mettiamo, e Peppe ci risponde ovviamente quello che seguirà la prossima trilogia di giochi, che è quella di The Bard's Tale. Diciamo, si conclude per ora solo la parte, diciamo, inerente all'alba, appunto, dell'epoca d'oro dei giochi di ruolo. Diciamo una cosa, sì, che sicuramente non l'avete ancora ascoltata, ma già ci sarà la polemica che dirà: ma non avete trattato il JRPG. Allora, noi, come abbiamo detto, poi dopo abbiamo fatto anche un excursus andando verso Amiga e via dicendo. In realtà abbiamo affrontato le origini del gioco di ruolo. E tra le origini del gioco di ruolo, ovviamente, non era ancora contemplata l'evoluzione poi il giapponese o roba del genere, quindi noi abbiamo preso questa deriva qui. Poi dopo, magari, come abbiamo detto, sull'ambito dei giochi di ruolo ci ritorneremo, così come torneremo anche in altre monografie tematiche di specifici tipi di gioco. Però insomma, per ora questo è il percorso che noi abbiamo voluto fare. Sa, non cominciamo a fare poi dopo storie, perché quello anche è perché sti cazzi. Anche sì, anche perché insomma, no, non è una questione di sti cazzi, è una questione che, allora, quando uno sceglie una linea editoriale di un episodio e cerca di seguire un filone, lo segue secondo una propria logica. Quindi noi vi abbiamo raccontato una storia, non fate poi, veramente, perché insomma, sembra abbastanza inutile. Poi, ragazzi, stanno a raccontare la storia del videogioco, fa veramente del partigianismo su queste cose, è veramente ridicolo. Comunque, questo insomma è l'evoluzione da quello che è il gioco di ruolo a livello di interpretazione basata su regole poi riportate anche sul computer, l'evoluzione della grafica, abbiamo visto anche da quando si passa dal monocromatico, il fosforo verde ai colori, e quando comincia a diventare ovviamente grafica bitmap, fino addirittura a la grafica animata a colori dell'Amiga 500. È stato un grande cammino che è ancora tutta in evoluzione che ha aperto nel genere di giochi di ruolo poi tutta una serie di ulteriori sottogeneri, come abbiamo provato anche a farvi vedere. Alcuni oggi sono sopravvissuti e addirittura sono ancora forti, come i dungeon crawler, come i roguelike, come addirittura Might and Magic, che ancora esistono, sì. Roba del genere, quindi insomma tutta una serie di questioni. Più ovviamente c'è tutto un mondo un po' di fan, di appassionati di retroprogrammazione, che come su tutto insomma i generi di cui stiamo trattando sappiamo insomma ci sono cose che stanno riuscendo fuori. A questo punto io lascio un commento finale a Giuseppe, poi andiamo insomma alla rubrica che donne e bambini stanno aspettando. Si grattano la pancia mentre i capelli ingrifandosi. No, io diciamo, inviterei comunque gli ascoltatori, se possibile, se interessati ovviamente, a giocarsi alcune di queste, almeno provare, più che altro per vedere effettivamente come queste meccaniche appunto o comunque gran parte degli elementi che si trovano nei giochi contemporanei odierni sono sopravvissuti e come sono evoluti a partire appunto da quelli degli albori fondamentalmente, e anche perché no, come diciamo ai tempi bastava poco fondamentalmente per divertirsi, perché gran parte delle cose tu dici poco, esatto. Ma in realtà quel poco era tantissimo. Gran parte delle cose tantissimo. Appunto tutte le immaginavi sì, molto ce lo dovevi mettere dentro, richiedeva anche molto sforzo, perché comunque erano giochi appunto ripeto difficili per l'epoca, tra il 100% anche, di fantasia e il 99% sì. Di fantasia era comunque un guadagno sì. Inimmaginabile. Ma il discorso è che, come dice Giuseppe, allora una volta faremo una puntata su chi ha affrontato il percorso a ritroso, perché sì. Noi che siamo cresciuti con questa roba, in realtà sapendo quelle che erano le potenzialità, cioè le, per noi era implicito il fatto che i 4 pixel in croce erano un omino, ok? In realtà oggi non è così diretta la questione, quindi è difficile proprio spiegare appunto quello che dice Giuseppe, cioè il fatto che non è che tu dovevi solo capire che quello era un omino, ma tu in quell'omino ci vedevi un universo, cioè nel senso che quando tu stavi giocando e ti ascoltavi, ti leggevi quelle sei righe di descrizione, roba del genere, il resto ce lo mettevi te, cioè nel senso come quando abbiamo parlato delle avventure testuali, no? Qual è la più potente scheda grafica della storia? La nostra immaginazione, ed era tutto là. Poi è chiaro che oggi non siamo, cioè siamo abituati, e ci piace anche a noi che abbiamo giocato i giochi a 4 bit e mezzo, ci piace pure a noi oggi giocare con i giochi super iper realistici, con il fotorealismo e tutto quanto, però è vero poi andando a riportare che comunque quello che ci danno oggi in più questi giochi, dall'altra parte come bilanciamento ci hanno levato, no? Esatto. In qualche maniera, e questo è un dato di fatto, non è un discorso da vecchio, non stiamo dicendo cosa è meglio, noi siamo vecchi, no, ma non diciamo cosa è meglio, cioè nel senso diciamo quello che è com'era la situazione, cioè la situazione è che comunque mi ricordo un fantastico la fantastica recensione di Indiana Jones and the Fate of Atlantis, no, The Fate of Atlantis ancora meglio, prima The Last Crusade su The Games Machine, dove dice tu ti sei visto il film. E quando Indiana Jones entra nello studio del mecenate lì che voleva finanziare tutto quanto, e rivedi la scena, tu con la tua mente andavi a ricostruire le inquadrature che hai visto nel film. Ed era così, è vero, cioè era sacrosanta sta cosa. Cioè, può sembrare una stronzata, ma in realtà questo era, insomma. Quindi, ritorneremo a parlarne, perché sì. Poi parleremo di avventure, continueremo a parlare anche parleremo poi di tutti gli strategici, quelli diciamo ispirati a Dungeons & Dragons dell'SSI, sì. in un futuro esatto, perché poi purtroppo è un abbiamo detto quando parli di queste cose scoperchi levi il coperchio al, veramente al vaso di Pandora, perché dentro poi appunto ci saranno dei milioni di sottogeneri, software house stesse che meritano da sole ovviamente una monografia. Vabbè, detto questo, andiamo alla parte insomma che attendevano bambini e piccini e anche casalinghe. Entro un attimo dentro al frigo. Guarda, il frigo adesso stai qua perché ci abbiamo tutto dentro al frigo. No, al frigo tu lo guarda, l'ho messo qua, te l'ho appiccicato qua davanti. Che figo il clouding. Hai capito che roba, eh? Sì, adesso però dentro al frigo c'ho una cosa che mi fai lanciare la rubrica? Lanciala. Stavo parlando del in Google. Oh, allora ecco, diciamo che questo collegamento in cloud tramite frigorifero ci permetterà il di cloudorifero. Sì, sì, il frigo-cloud. Scusate, ma è tossisce. Sì, ma perché sono un attimo affacciato al frigorifero. Purtroppo anche nella puntata caldo, freddo, freddo, caldo. Nella puntata del doppiaggio, mentre Carlo spiegava questioni tecniche importantissime sul doppiaggio, sentiva io che smucavo a destra e manca. Quello è il bello della divetta. Della divetta. E abbiamo un po' di video che intanto ringraziamo stato Giuseppe pure per questo, perché diciamo che Marco ha fatto se la sua se buona se lo fai dire. Ah, scusa, non avevo capito che stai dicendo questo. Stavo dicendo, comunque, questa serie di video di cui in cui ha anche collaborato anche Giuseppe, è inutile che lo dica adesso, l'hai detto tu. Comunque, ma dillo dai, che è bello che tu lo dica. C'è una serie di video che mi ha aiutato a procurare anche il buon Giuseppe, tra cui tutta quanta diciamo una disamina su come togliere di mezzo Lord British in diversi ultima. Esatto. Ma facciamo partire i video, perché io direi che bisogna commentarli dal vivo questo qui, quindi sempre questo qui è ultima X, ultima IX, anzi ultima 9, che fu praticamente l'ultimo della serie. Questo qua era bello perché praticamente l'unica maniera per farlo, come vedrete, è quello di avvelenare Lord British, perché tu all'inizio del gioco, prima che arrivi su Britannia, un passaggio segreto che manda alla cucina era quella di fare con la macchina del pane e il veleno per topi una pagnotta avvelenata. Siccome ogni tanto Lord British andava ovviamente a mangiare, gliela mettevi sul piatto quando arrivava. Lui prendeva la bagnotta, se la bagnava. Hello, Avatar. How far, team? E tu, goodbye, my lords. Farewell, Avatar. E veleno faceva il suo effetto. Ma ti arrestavano? No. Però il gioco a quel punto diventava ingiocabile. Ingiocabile, esatto. Ah, che bello. Perché diventava ingiocabile? Perché comunque perché lui era quello che mandava questo. Esatto, hai ragione. Sì. Ma queste cose, poi c'è questa cosa di dover ammazzare. Queste cose sono studiate da Lord British, sì, o sono degli. Sì, perché in realtà Lord British era inuccidibile. Sì, ma Garriott, diciamo, dopo che scoprì che nei primi capitoli i giocatori tentavano di farlo, pure lui cominciò a inserire, per esempio, nel set un easter egg dove cliccando su una determinata su un determinato quadro, praticamente se ci passava in quel momento Lord British moriva. Lui l'aveva pianificato lui, e il bello è che si riferiva a un evento esistente della vita di Garriott, di quando a Origins ci cadde addosso una placca di metallo nell'ufficio. Questo allora, è qua preso dal 6. Infatti io qui vedo ultima 6 prostitutte. Vabbè, sì. La prima volta che ho giocato a un'ultima, la prima cosa che ho fatto, sì, quando sono entrato nel castello di Lord British, che attaccato dall'ammazzare, e quello a cui c'è la spada, eh sì, infatti in maniera fuoco, gli approcci diretti sono sempre quelli sconsigliabili. No, poi è scappato dopo, perché e questa è l'ultima 6. Ascoltaci questa ultima 6, vediamo il nostro avataro che se ne va. Questo è quello più famoso. Questo è ammazzarlo nel sonno con un'arma che si chiama spada di glass sword, spada di vetro, che praticamente si frantuma ogni volta. Si frantuma quando la usi, però tipo al momento in cui la usi per quell'attacco ammazza, che è critico, sì. E il bello è che comunque si distrugge, quindi tipo non lascia neanche prove, no? L'arma del dio, ecco, aspettavi che lui insomma si riposasse, lo bloccavi e lo ammaccavi. Anche perché ricordiamo che su ultima, se tu trovi dentro un villaggio e davi la spada da uno, arriva nei quattro, sì, cioè, però se qui ammazzavi il re con la spada di vetro non arrivava nessuno. No, perché la spada di vetro era un'arma speciale che poteva ammazzare chiunque con un colpo solo, però non lasciava traccia. Una cosa del genere, se vi ricordate, si trova anche nel 7, quando poi prendevi anche l'espansione della famosa spada nera, che era quella, la Black Sword, era quella che evocava una specie di demone rinchiuso all'interno della spada, che attivandolo potevi decidere in automatico il fatto di una persona. Cioè, comunque grandi giochi gli ultimi grandi giochi, veramente ore e ore. Qua entravi, ovviamente il problema qual era? Il momento in cui ammazzavi Lord Vidish, tutte le guardie all'interno dell'universo. qui lasciamo un po' più di tracce, esatto, insomma. Vediamo la spada nera. Della spada, infatti, dice: chi vuoi ammazzare? Quale potrei usare? Morte. Su chi? Click automaticamente. Sei sicuro? Sì, sì, vai, vai. Morte, morte. Morte, morte, morte. Allora, e quanto la cosa è Lord British, niente. Sì. Perché fa questa cosa di uccidere? Diceva di avvicinarsi. Perché non lo potevi ammazzare. Il cretino sta ripetendo, aveva giocato, perciò sta guardando una cosa di gameplay. E diceva, avvicinati un pochettino. Infatti non l'aveva capito che dovevi. Blocked, forse adesso deve. Esatto. Forse penso può riuscire a uccidere questo fottuto Lord British. Vediamo se ce la fa. Prima deve riselezionare la spada, esatto. Ecco. Evocare lo spirito. Ah, sì, che cavolo vuoi da me? Poteri, morte. Chi deve ammazzare questo? Questo qua, clicca con questo. Ok. Sì. Adesso Lord lo faccio. British, tu sarai ammazzato. E lui diceva: oh, che cosa hai combinato? Perché? Che tradimento è questo? Quindi era previsto anche. Guardie! Sì, era previsto che venisse ucciso, insomma. Era previsto che venisse ucciso. Infatti, guarda, qua c'è l'animazione della morte. Viene decapitato e le guardie che accorrono. Ma va a combattere! In modo cazzo, sì. Per cui non esci vivo comunque. Vabbè, se avevi alto livello, cioè se avevi preso la spada nera, eri praticamente alla fine del gioco. Quindi comunque te la saresti cavata. Però il gioco non finiva. È sempre il discorso che il gioco lo rompevi, no? Non finiva. E diciamo, ci fosse anche questa cosa qua. Sulle scie del di questa, diciamo, gag ricorrente dell'ammazzata di Garriott, ci sta pure un video. Dove è presente anche lo stesso Garriott che praticamente viene ucciso da se stesso da un avatar. No, c'è l'avatar che prova ad ammazzare Garriott. Vabbè, mettiamocelo a vedere questo simpatico videozzo. Vediamo un po'. The Spoonie Experiment. Posso mettere un poco di audio, perché in realtà questo è forte. Ma lo sai, il problema è che poi dopo, anzi, già noi possiamo manco sta qua, sì, a vederselo, insomma. Lo annunciamo, lo spieghiamo e diciamo che c'è sto video che comunque potete vedere sempre nelle note dell'episodio. Che cosa succede in questo video? Praticamente c'è innanzitutto è ambientato. Ma che grafica, guarda, sembra guarda, vero. Guarda. Porca miseria. E questa è la magione di cosa? Di la magione. Il castello. Madonna, che figata, cazzarola. È un genio questo uomo. L'ha costruita o? Se l'è comprata. So anche i passaggi segreti dentro. Sì. Great feast is how to celebrate. Sì, perché stiamo celebrando la vittoria dell'Avatar nella missione. Nel frattempo, in un pub. Esatto, e qua c'è Garriott. E questo è l'Avatar che cerca di. Garriott interpreterà se stesso? Sì, sì. E guarda, veramente. Lord British. Cioè, nel senso. Fa Lord British, ovviamente. Ah, okay, perfetto. E guarda, se guardate ora di lato, però è coperto da spuni, c'è una tizia con la bambina, sì, appresso, e quella è la moglie e la figlia di Garriott. Chissà la figlia cosa penserà del padre. Ecco, ora lui va a caccia e dice: stronzo, ora mi devo vendicare. Perché gli ha dato 3 ramini, ovviamente. Sì. Come ricompensa per tutta la fatica che ha fatto, immagino. Aspetta, che vado un po' più avanti. Ecco, mentre Garriott va a caccia. Vabbè, è molto prima con la bottiglia è molto tarocco. Beh, ma non ce la fa, perché ovviamente. Eh no, perché non è, è invulnerabile. È invulnerabile, quindi non lo può ammazzare, certo, giusto. Vabbè, qui tra l'altro si vede pure che non lo sta colpendo. Sì, vabbè, ovviamente non potresti mai farlo. No, insomma, però un po' di scenicità. E vabbè, sì. Comunque. E bene, comunque Garriott ci è sempre stato, ovviamente, sempre da. Ma sì, da ma Garriott vi vede questo. C'ha la faccia un po' da folgorato, Garriott. Sì, questo. Vabbè, che poi finisce con lui, insomma, non ne può più. Cioè, uno che comunque se n'è andato nello spazio, si è comprato il castello di Lord British, perché poi diciamo faceva la verità, fine il castello di Lord British. Te sei comprato infatti castello. Parlando relativamente al castello di Lord British, vediamo un video sui vari passaggi segreti ci sono anche i caimani sotto i coccodrilli. A quanto pare c'è anche pure una sezione, diciamo, di caverne sotterranee in cui ci sono dei goblin, ci sono dungeon, in cui sono dei goblin sotterrati, infatti aspettano altro sotterraneo, ovviamente con un setting sempre medievale. Qua è un poco più giovane, se non notate, rispetto. Ma questo sembra più una villa che un castello, comunque. Vabbè, l'avrà sicuramente. Infatti è Britannia Manor. Infatti è. Ah, vedi, ci stanno pure gli scheletri della magia. Comunque sei un folgorato, diciamo. Sì, a voglia. Aspetta, vediamo se riusciamo a fare quei passaggi segreti. Questo per esempio della Britannia Manor, ecco, qui insomma è bello lungo, insomma, quindi poi questo veramente ve lo dovete andare a spizzerellare, è veramente carino, perché insomma ci sono delle particolarità. Sì, perché lui tipo aveva usato qua una cosa per, diciamo, un ingresso nascosto per salire là sotto al piano di sopra. Questo è questo comodo. Infatti, quello che cerca quando devi mettere le corde a tua moglie. È bello che ti spiega pure i meccanismi, che tipo alcuni si attivano tipo col magnetismo, spostando particolari oggetti, cioè sono anche molto sofisticati, anche con dei peti molto massaggi. Perché roba l'ha fatta lui comunque, cioè ce l'ha fatta costruire lui con i suoi fantasiglioni di miliardi che ovviamente ci avrà speso per fare questa follia. E poi vabbè, andando avanti, Marco. Beh, allora ci sta il Garriott spaziale, perché sempre lui, ci sono queste cose spaziali di Garriott. Che lui ovviamente poi, dopo che se ne è uscito dall'Origin, prima che ovviamente la facesse chiudere Electronic Arts, che l'aveva già acquisita. Cioè, prima che mi magni tutti i soldi col mio castello, si è fatto una vacanza nello spazio. Però ricordiamo anche che sicuramente lui l'ha pagata sonoramente, ma come diceva Giuseppe prima della trasmissione, Richard Garriott c'ha il padre che è stato un astronauta. Quindi non è che bastano solo i soldi, sicuramente un minimo dei contatti. Ha avuto contatti, però comunque secondo me l'ha sborsato abbastanza. No, sicuramente. Bastano i soldi. Non è che te bastano già i soldi. Ma non lo so. Tu vai a NASA e gli dici, senti, te do un po' di soldi. C'è il video anche di quando gli fanno tipo gli addestramenti, no? Mm-hmm. Perché ovviamente ti fanno una preparazione prima di andare allo spazio, ti frantumano le clavicole, una serie di visite mediche, tutti i test di stress, perché da quando parte il razzo, insomma, vediamo se riesco a quanti G porrà a partire un razzo. E qua infatti è già dentro la stazione spaziale. Che bello fluttuare nello spazio. Mi è venuto in mente di fare un altro gioco così. No, ma io penso, cioè, perché poi fanno sempre vedere sti video di quando, che ne so, devi bere una cosa che parte roba del genere, quindi c'è tutta ma il problema è quando fai la cacca, secondo me. C'è l'aspirapolvere, cioè ci deve essere già un qualcosa che aspira da c'è sotto. C'è una persona che si aspira col tubo. Dai, che schifo. E là si metteva a fare questi triangoli che erano tipo opere artistiche, non so se avete visto prima. Ah, sì, mamma mia. Una follia, un uomo una follia. Beh, sì. Comunque, allora, sempre parlando di giochi di ruolo, spostandoci però nella più moderna area temporale, c'è gente che conoscete Gothic? Sì. Chi non conosce il buggatissimo Gothic? Ma non è il buggatissimo Gothic 3, è il primo Gothic, i primi due Gothic. Nello specifico c'è un tizio che praticamente, un gruppo di tizi in questo momento sta lavorando su un mod per trasportare il fantastico mondo di Gothic, in questo caso vedete Gothic 2, nel fantastico mondo di Skyrim, quindi costruendo attraverso il kit di costruzione di Skyrim, ricostruendo le ambientazioni, i paesaggi di ricostruzione di Skyrim. Certo che c'è un kit. Allora facciamo un gioco. È uscito solo per PC tutto questo qua, è stato rilasciato qualche mese dopo, sempre da Bethesda, in maniera del tutto anche su Steam. È uguale, sì. Beh, uguale come grafico, no, però come zona, sì, come fedeltà, no, sì. Grazie Arca, comunque il percorso è uguale, oh. Sì, no, è esattamente lo stesso. Quindi, questo è altre persone che non hanno. Non cazzo non la fare. Figli, sì, non hanno figli, però avranno dei giochi fedelissimi, come potete vedere. Ci sono anche spesso anche le stalle. Qui c'è un altarino, figata, però mi sembra che c'è l'altarino anche su Skyrim. Adesso si è bloccato tutto, ma vabbè. Comunque, questo è stato ricostruito. È una ricostruzione molto fedele, alla fine, però, si conclude con un castello sospeso nel vuoto. Perché manca un pezzo, ci stanno lavorando. E poi c'è gente che ultima, questo perché magari vuole tornare a vivere il fantastico mondo di Ultima, o non che si è rassegnata alla chiusura di non, non lo lasciano andare. C'è il sito Reconstruction Void, che vedrete nel, che beh, quanto sto vedendo praticamente utilizza come motore il terzo, l'Exodus, sì sì, versione 3.0 tra l'altro, che stanno cercando di ricostruirlo, riportare. C'è anche il Ultima 5, c'è un graphic enhancement mod, c'è gente che praticamente, però questo Ultima 5 mi sembra tipo che sta usando il motore del 9, se guardi che sì, c'era sì, quello sì, tridimensionale. Sì, sì, sì, se vai nella home page di allgamesitalia.net mi pare che addirittura stanno rifacendo il 6 col motore del 7, quindi insomma vedo che c'è veramente una grande partecipazione. Io chiuderei anche Marco, visto è considerato che in questa puntata abbiamo parlato di Rug, anche se non l'abbiamo inserito in scritta, però poi c'è Rogue. Di Rogue. Ah, Rogue. Ho capito, di Rogue. Di Rogue, sì, no, parliamo di Rogue. No, ma era partito male in effetti, di Rogue. Se tu ti ricordi, una volta Stefano Biggio ci invitò a una puntata di Retrocast dove lui parlò di un gioco simpaticissimo che era praticamente Doom che incontra Rogue. Ah sì, l'avevo sentito. Se tu ti ricordi, che praticamente era questo gioco roguelike, completamente roguelike, soltanto che con l'ambientazione di Doom, quindi con i mostri di Doom, gli audio di Doom, roba del genere. E la cosa bella è che ovviamente c'è tutta la grafica che è riportata similare a quella di Doom, soltanto che vista in stile roguelike, e però c'è una modalità addirittura per giocarlo in Ashi, quindi proprio per giocarlo così come sarebbe stato se fosse stato programmato. Doom.chaosforge. Esatto, perfetto. Vediamo gli screenshot. No, ma ci sono anche i video, se andate a cercare su YouTube, l'abbiamo visto l'altro giorno. Allora, questo qui non è, questa non è versione ASCII. Sì, però comunque c'è il cacodemone. Sì, sì, caca sicuramente. Sì, però lo stesso gioco può essere giocato in ASCII. Ah. Vediamo qua, questo qui dovrebbe essere, eccolo qui. Mamma eccolo mia. Qui ed è fantastico. Ma no, guarda che è divertente, cioè geniale. No, vabbè, ma Luca, attenti, frega un cazzo, piace un cazzo. Vuoi vedere un cacodemone? Guarda il cacodemone in ASCII. Guarda, guarda, guarda, è bello. Guarda quanto è bello. Bello. Guarda, se tu sgrani un po' gli occhi, riesci a vedere meglio. Se tu fai, se c'hai 4 decimi, vedi benissimo. Allora, io direi di. E poi se avvicini il naso pure allo schermo riesci a sentire meglio, no? Esatto. Senti molto, molto. Perfetto, bene. A questo punto io per andrei sito sito buono buono gatto gatto a quel bar su Mele Island. Però ci sarebbe anche. Ma non c'è. Gettone di presenza. Quel bar su Mele Island, che è la parte ovviamente dove noi dedichiamo un po' di spazio e di attenzione ovviamente alla mail, alle poste, ai commenti che ci sono arrivati, e questa volta addirittura c'è materiale dal sito di allgamesitalia.net, Marco, che è stato costretto a far scrivere tutti i redattori e persone che passano lì per caso. No, tra l'altro, allora comunichiamo ufficialmente che da oggi, anche se voi lo ascolterete non so quando e non so come, comunque da qualche giorno fa, dal 14 marzo allgamesitalia.net, all'interno dell'area forum c'è un'area dedicata ai podcast, e sono stati aperti ufficialmente i podcast di archeologia videoludica, archeologia informatica, dietrologia videoludica e l'occhio del beholder. Quindi se volete potete tranquillamente iscrivervi al forum di allgamesitalia.net e venire a commentare le puntate direttamente là dentro. Grazie. Un applauso. Ricordiamo anche fantastico. Canale, il gruppo oggi su Steam. Ma quello alla fine ancora non abbiamo finito. No. Vabbè, questa era una cosa che invece dovevo dire, perché altrimenti poi ci sarebbe stato il rischio che mi si fossi dimenticato. E siccome avrei dovuto dirlo all'inizio, ma non l'ho detto, lo dico adesso. Allora andiamo. Meglio tardi che Mike buon morto. Buon zombie. Allora, commenti dal forum di oggi arrivano dal buon J-Man. Mai sentito. Spero che no, neanche. Infatti è una di quelle persone che è stato prese per caso, però ci fa comodo. Sulla puntata su Doom, che tra l'altro è una puntata che è piaciuta molto. Che è piaciuta tantissimo, ha due ricordi fondamentali. Ci dice nella sua vita come quando scoprì il Pandoro cosparso di Nutella scaldato al microonde. Quelle sono brutte cose, veramente. Uno, il primo ricordo era il 3868 Mega, su cui cercava di far girare appunto Doom. Aveva un banco RAM difettoso e quando l'eseguibile andava ad allogarci la memoria, una volta su tre il PC esplodeva. Vabbè, insomma, quindi c'è rimasto sotto, insomma, con l'esplosione è probabile, insomma. Io so sempre, vi ricordate che c'è rimasto un film 60 quello quei errori. Io mo sarei tenuto. Quindi oggi sarebbe, vero, oggi sarebbe stata una cosa che avrebbe avuto un valore. È come che se tu prendi il tuo iPhone e dici Siri, mi dici che però giorno è oggi? Però non è così raro, perché in realtà ne hanno fatti milioni di quei cazzo. Siri, mi dici che ora è? Buongiorno. Non sono sicuro di aver capito. Vado a fare una ricerca su internet per che ore sono. Parlando di nostalgia, mi interessa di più il secondo punto, perché mi ha fatto ricordare una cosa, un aneddoto della mia infanzia. In 3 giorni di fine estate, con degli amici rinchiusi in una magione, ragazzi. Quella forse di Carriott, attenzione, torna alla magione. Rete locale IPX, ragazzi. Giorno e notte a giocare a Doom, ragazzi. 3 giorni e 3 notti, una sfida all'ultimo frag, solo pausa e gabinetto e cibo alternandosi, ovviamente era l'ottobre del 97. Questo mi ricorda a me appunto una serie di esperienze simili, appunto ai cosiddetti LAN party, no? Dove addirittura, siccome appunto pure io Doom lo facevo girare su questi cassoni, mi andavo a portare a casa degli amichetti tutto il case, certo, del PC, certo. Andavo a fare i collegamenti, facciamo, sì. Tutti facciamo così, che è stato il primo gioco che ha dato il via a questo tipo di discorsi. E addirittura io mi ricordo che a Roma, questo forse l'ho già raccontato, c'era un negozio a Ottaviano che si chiamava Per Gioco, che faceva parte di una catena, che aveva poi affittato un locale accanto dove praticamente aveva messo tutti questi PC in LAN, e chi non c'aveva ovviamente l'opportunità di giocare questi giochi in LAN, roba del genere, andavi lì con la tua brigata d'amici e ti sparacacchiavi a botte a Doom per ore intere, veramente, ragazzi. Cioè, è stato il gioco che ha dato altro che il multiplayer di oggi. Cioè, veramente lì si divertiva e ci semenava pure, perché siccome che stavi accanto, rosicavi, davi la pizza a quello che stava accanto. Certo, multiplayer sensoriale. Sensoriale. Per rilassarmi, il simpatico G-Man a volte partiva in difficoltà a Nightmare, digitava idvka. E compivo carneficine a nastro. Sì, perché era quello che chiave il God Mode, no? ID Kifei. Non lo so, eh. Poi ho scoperto il Tower e si è calmato. È fatto bene. Il Tower fa molto bene. The Ancient One, il nostro medico anziano. Ah, Doom, magico. Lui scrive, dovete vedere le impaginazioni. Lui scrive come se stesse componendo un sonetto. Sì, è bellissimo. Sì. Magico. Come tutti, avevo già provato altri giochi in soggettiva all'epoca, e ovviamente anche Wolfenstein 3D. Però Doom è stata in un certo senso la prima volta. La rivoluzione 3D, anche se proprio un 3D non era, era compiuta. Il mondo del videogame non sarebbe stato più lo stesso. E questo è vero. Già. Era anche la prima volta che i videogiocatori tremavano per davvero. Quel gioco faceva paura. Lo si giocava a luci spente, con le cuffie. Io lo comprai anche col pannolone a volte. Io lo comprai apposta, pensando di immedesimarmi ancora di più. E ti faceva saltare sulla sedia. Vedi, sta cosa, dei punti, degli a capo. Un sonetto. Personalmente non mi è forse accaduto più. Poi Doom fu grande anche per altri motivi. Le LAN e il gioco per modem. Non era primo, fu il primo però a diffondere il multiplayer per davvero, le mod, decine di livelli, decine di idee, fantastico. Però c'è una cosa che troppo poco spesso si fa quando si parla di Doom: non lo si confronta con altre cose. Ad esempio, all'epoca di Doom, in un altro genere, c'era un suo concorrente diretto, Ultima Underworld. Il successo del gioco, ahimè, non fu lo stesso, ma tecnicamente, tanti punti di vista, il titolo Looking Glass mancava Carmack e soci. Un giorno dovrò puntualizzarla in un articolo questa cosa. Voi ne avete parlato? No. No, perché fanno pure di un articolo. In realtà no, perché noi ci siamo soffermati completamente soltanto solo sulla monografia di Doom, e poi in realtà, ecco, anche su questo topic nel forum di All Games Italia è partita ovviamente la discussione su qual è il motore, il primo motore 3D, quello veramente 3D, quello su più piani, quello che faceva la discesa, la salita, roba del genere. Quindi insomma, comunque, dopo aver fatto questa su questo sonetto, ci dice che domani comunque inizio ad ascolare la puntata. L'avrà ascolata? L'ascolata, non lo so, penso di sì, l'ascolata. The Rula, il nostro magico Rullo. Bentornato, tra l'altro. Ma lui non è mai andato via. Si è accostato, cioè, come le porte, come le finestre del Windows. Okay. Sta lì accostato. E se paragonassimo invece i due giochi dello stesso genere, magari come si sono evoluti in epoche diverse videoludiche? Appunto, come dicevamo, si sente troppo spesso dare ai recenti del FPS. Gioco, esatto, del gioco da bimbo minchia. Ma è davvero così? Possibile che possibile che non ci siano software house, o meglio publisher, con le palle da sfornare, con le palle da sfornare roba con le palle. Qui sei un attimo perso di rule, comunque sì, anche che io porto la maestra pure lui. Esatto, con le palle da sfornare roba con le palle. Vabbè, la più grossa delusione è tautologia, scusa. La più grossa delusione dell'era moderna, Duke Nukem Forever a parte, che sarà ancora di più probabilmente. Qual è stata secondo voi? Alien Colon Marines. Lo spara brutto in prima persona. Ragazzi, ma quello perché tu c'hai il budget. Ah, ma se tu togli il budget, c'è sta Haunting Memories, sì, per dire. Vabbè, ma quelle che c'è. Non è uno sparatutto. Ma quello non è una delusione, quella è una sozzeria. Cioè, ho detto fra noi. Tutti i Modern Warfare Medal of Honor a cosa servono? A soldi. Bravo, esatto. E poi che cosa servono? Ma che mi serve? Quei titoli sì che possiamo paragonarli commercialmente la serie PES e FIFA, ma magari che fanno anche soldi, che fanno soldi di entrambi, insomma. Infatti sono le versioni PES e FIFA. Sono giuste riflessioni, poi ho detto, cioè questi sono alcuni spunti, poi dopo è andata avanti anche tecnicamente, se chi ci va la paternità del primo motore, Carnac, quell'altro, insomma, nel senso tutto molto interessante, però chiaramente poi per esigenze ho dovuto scegliere alcuni dei commenti. Poi c'è un commento da Momenti da Foto, che non so quale sia il nome, non so quale sia il cognome, ma forse Momenti è il nome, da Foto è il cognome. Da Foto, esatto. Ci scrive e ci dice: buonasera a voi carissimi, una domanda causata da un temporaneo vuoto di memoria, quello si chiama ictus, noi abbiamo a decine, capirai, noi abbiamo degli esempi lampanti, ci abbiamo parti del cervello completamente. Andate, in quale puntata avete parlato di Atari Cosmos? Non lo so, esiste pure il Cosmos? No, infatti non lo so, qualcuno era anche 4.02 addirittura, recente pure Cosmos, cioè. Proprio devo dire la verità, non lo so. Perché, però ecco, ho visto che qualcuno ha provato ad abbozzarti una risposta sulla pagina di Facebook a nome di Archeologia Videoludica, non so chi sia stato, quindi io neanche io, però forse scaletta. Che lui tiene traccia mnemonica della storia del programma, dei telefoni, poi gli vedi se qualcuno può fa solo questo, lo so. Tiriamo fuori anche lui, che lui solo quando c'è Nintendo viene. Ormai sì. Domani avrò un esame, storia di nuovi media del videogame, volevo discutere con il professore della mancata innovazione in ambito videoludico del controllo e delle interfacce. Ma qui gli ho risposto. Beh, io per quello, okay, gli facciamo in bocca al lupo, anche se penso che sia meglio che andato, sarà certo. Stato bocciato, ma facci sapere come è andato a finire. Si è basato sulla nostra puntata, è stato bocciato sicuramente. Mi spiace, non abbiamo fatto e lui ha cancellato chiaramente l'abbonamento da tutto. Commenti da GPU, niente, non ci scrive neanche più il buon vecchio Capitano Kirk. Neanche lui a Sciamma. Su DVL almeno ci chiede che cazzo. Okay, motherfucker, però niente, neanche quello. Niente. E mail non ci sono arrivate, però nessuno nuovo. No, buona però... scendiamo. A posto così. Però perfetto. No, andiamo più avanti una scheda. Veramente è finita la scheda. C'è il bianco, ok, va bene. Allora... vi ricordo www.archeologiavideoludica.net, allgamesitalia.net, appunto cercate anche nei forum all'interno, non soltanto c'è l'area podcast nel sito, ma anche l'area podcast nel forum. Archeologia Videoludica la trovate su G+ e su Facebook, continuate perché i like sono aumentati su Facebook e poi su G+. Esatto, i like quanto sono diventati? A ben 620. Insomma ragazzi, se arriviamo a 1000 entro l'estate facciamo magliette e cappellini, ok? Ci poi rimettiamo, dopo... tiè. Ci spendiamo pure qualche soldo sopra, insomma. Non sarebbe assolutamente male. E poi ovviamente Videoludica è il nostro Twitter, quindi cercateci anche lì, così ci potete tranquillamente seguire e potete conversare con noi. E ringraziamo ovviamente www.italianpodcastnetwork.it. Detto questo, ringraziamo Marco Gualdi il distruggitore, che adesso lo rimettiamo. Infatti, non c'entra niente, però no, c'entra perché voi sapete che noi facciamo i nostri video soprattutto su soprattutto per il canale di allgamesitalia.net su YouTube, ovviamente Dietrologia Videoludica. Stiamo facendo tutta una serie di video per qualche settimana, un paio di settimane siamo stati fermati perché insomma stiamo saturando la rete, esatto, adesso stiamo rifacendo nuove cose. Ci ha scritto YouTube, ha detto troppa roba tutta insieme, non ci abbassano i soldi, basta che dovremmo comprare nuovi server, non ci va. Hanno dovuto togliere l'underscore sui risultati di Google per fare un po' dei soldi, come si chiama, la sottolineatura underscore. E quindi niente, quindi Carcer Poo, siamo arrivati a 42,53 centesimi. Serve a raccogliere i soldi. Sì, allora Marco per sta cercando di 1000 euro per comprarsi il computer. Esatto, okay. Perché sennò non può più giocare. In realtà costa di più, ma è 300 euro ci metto io. Quindi già. Ah, vabbè, oh, che cazzo, qualcosa. Cazzarola, cioè, volete dire. Quasi il 20. Ricordiamo che il primo gol è 200 euro, siamo ancora ben lontani. E con 200 euro riceverete la foto di un gioco pirata. Vi scarico un gioco pirata. Esatto. A vostra scelta. A 500 però il crack ve lo trovate da solo. A 500 euro invece potete vedere in streaming per 20 minuti Marco che videogioca a un gioco. Però spalle, non vedete spalle, il gioco, ma vedete Marco che gioca. Esatto. Cioè, esatto. Quindi potrebbe anche essere che sta giocando, che ne so, al famoso al famoso gioco dello Spectrum che ti inculi le vecchiette, insomma. Esatto. Quindi... ma le vecchiette non c'era, no, c'era quello della strada viola, sì sì, non no, le vecchiette, no, c'era pure le vecchiette. Vabbè, io... cioè, c'era pure la vecchietta, quella... te dico, ma l'ho visto l'altro sera, sì, sì, quella era la mature, era la Granny, no, no, no, no, no, quella era la Granny, no, no, no, te dico, no, te dico. Facciamo i nostri video, c'è il canale oggi su Steam. Se mi volete rintracciare, non vedo perché, ma se mi volete rintracciare sono su Google Plus, come me stesso. E poi lui c'ha il suo famoso blogspot.westnet. E poi su Facebook potrete provare a rintracciarmi tramite archeologia, videoludica, ideologia, videoludica. Insomma, potete, se volete, ma se non volete, uguale, tranquilli. Cioè, no? Perfetto, perfetto. Non lo ringrazio come se fosse stato un ospite, perché in realtà, come abbiamo detto, oramai gli diamo definitivamente il benvenuto anche a Giuseppe Saso come parte integrante della crew di archeologia videoludica, però chiaramente nel lasciarci, nel salutarci, gli diamo l'opportunità di fare ancora una volta pubblicità a questo fantastico podcast che soprattutto soprattutto nella puntata dove si è parlato di JRPG verso giochi di ruolo occidentali si è scatenato proprio la discussione, sì, l'interesse universale. Sì, e soprattutto ripeto, visto che non ho potuto raccontare tutti i vari aneddoti su Ultima, ovviamente non affrontare anche gli altri capitoli restanti della saga, insomma ascoltatevi almeno quella puntata se proprio volete saperne di più. No, ci siamo anche detti perché poi cioè nel senso noi qui possiamo fare un'infarinata, poi ovviamente se esiste un podcast tematico andando avanti racconterà la storia dei giochi di ruolo, quindi insomma ecco, avete questa opportunità. Occhiodelbeholder.it è il sito, quindi non l'occhio, attenzione, ma Occhiodelbeholder.it è il sito, podcast@occhiodelbeholder.it è la posta elettronica, potete tranquillamente cercarlo anche in questo caso su Facebook come l'Occhio del Beholder. La LL sul sito l'abbiamo levata perché sembrava una cosa un po' più pratica, e poi ovviamente come abbiamo detto anche sull'area podcast di All Games Italia, e quindi all'interno del forum potete tranquillamente iscrivervi e commentare, suggerire anche magari temi o magari fare critiche, qualche serie di cui fare poi retrospettiva, ovviamente, che magari tutti questi fantastici podcast ovviamente li trovate tranquillamente e comodamente sul famoso store, sul client di iTunes di Apple, che insomma ha sempre fatto il suo dovere per quanto riguarda. Sponsorizziamo i nostri nuovi server, la sponsorizzazione. Ringraziamo, ecco, giustamente, anche chiudiamo veramente Carlo Sant'Agostino, non solo per archeologiavideoludica.it, ma per con Simetra, perché ovviamente con essendo questo nuovo sponsor che sostiene IPN ci ha permesso di avere nuovi server che sono velocissimi, potentissimi e molto molto molto capienti, e vi vengono a casa direttamente, e soprattutto ce li portano a casa. Non è vero, va bene, detto questo, grazie Giuseppe, grazie a voi ovviamente. Grazie Marco, torno nel frigo, ciao. Torni nel frigo e ci vediamo al prossimo episodio, dove dai dungeon bui e polverosi andremo a finire nel blu dipinto di Bit. Arrivata la nuova Opel Corsa? Yes, of course. È davvero divertente da guidare e ricca di tecnologia? Yes, of course. E posso averla benzina o elettrica da 149 euro al mese? Yes, of course. Nuova Corsa con incentivi Opel, tua da 149 euro al mese. Anticipo 2.284 euro, TAN 8,99, TAEG 11,3. 35 rate mensili, 15.000 km, rata finale 10.857 euro. Con scelta Opel fino al 31 dicembre, salvo approvazione di Stellantis Financial Services Italia. Info su opel.it.